ci vediamo in tribunale, continua. Continua che ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale per quello che hai detto. Io non ho capito una cosa. Ci vediamo in tribunale, cosa c'entra? Pezzo di merda. Ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale, vediamo quanto rido. Ti porto via tutto. Fosse vero, ti porto via tutto. Ti porto via tutto quel poco che hai. Tutto quel poco che hai, brutto pezzo di merda. Schifoso. Ti porto via tutto, infame maledetto. Maledetto. Maledetto, che tu sia maledetto, maledetto per quello che hai fatto, schifoso. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Ciao Giuseppe, senti, io mi sono rotto i coglioni di sentire gente che dice che farsi le canne fa male, passa è il passaggio per arrivare alla droga pesante. Per favore, basta, basta, basta. Io sono 30 anni che mi faccio 12 canne al giorno. Questo... 30 anni. Quante canne ti fai al giorno? Almeno 12. Però, almeno Giuseppe, 12. Adesso ho capito, beh, però, amico mio, però tantino, se qualcuno andasse, se qualcuno andasse, per carità, poi ogni caso è diverso. Diciamo che non le ognuno... affiderei il pulmino di scuola dei miei figli. Che mestiere fai, Giuseppe? Posso dirlo? Scusa, che mestiere fai? Io faccio l'autista. Come fa, Edward? Come fa? 12 canne al giorno da quanti anni? Da quanti anni? Almeno sono 30 anni, da quando avevo 17 anni, Giuseppe. Ecco, io credo, Giuseppe, che se qualcuno andasse a vedere dentro il cervello la tua situazione, qualcosa, non lo so, magari beh, poi ma non ho il cervello. 12 canne al giorno, non puoi dire che è normale farsi 12 canne al giorno. Ma perché? Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Lo dici tu che non è normale. Ma per me è normale. Per noi è normale, perché non è un cavallo, un pomo piccolo piccolo è. Giuseppe, scusami un attimo, solo le canne ti fai, no? Sì, non di più. Non di più, 12 canne al giorno, non di più, mi pare già abbastanza. Ma cerca di pesare le parole, imbecille. Non di più, scusi, nel senso che non ero io. Capisco il mondo al contrario. No, scusi. Ma quello al contrario sei tu, Parenzo. Perché tu travisi sempre tutto. Sì, ma io non traviso niente! Ha detto che fumo 12 canne al giorno, non traviso nulla io! Ma no, ascolta, tu stai travisando il fatto che uno dica che si faccia 12 canne al giorno. È normale fare il bagno. Una vasca da bagno e candidarsi a Reggio Calabria per la Lega. È normale fumare 12 canne al giorno. È normale masturbarsi sotto l'ascella. Io non ne posso più di tutti voi. Non ne posso più. Non mi sopporto più. I doppioni. L'ho detto io. Ma vaffanculo, dai. Vaffanculo tu, pezzo di merda. I Non sei più rock, non sei più metal. Sono diventata la signora Benson adesso. È diventata la signora Benson, a mio discapito, capito? Eccolo! David! Incredibile. È una cosa agghiacciante. Risentirlo è agghiacciante. Uno si vergogna. Mi chiedo scusa alla mia famiglia per quello che mi hanno fatto studiare, anche, ma anche e soprattutto gli insegnamenti che mi hanno dato. Anche insegnamenti? Io devo chiedere scusa. Ma stavi combattendo con un ascoltatore. Perché, che scusa. Cioè, in un contesto normale, io non mi dovrei neanche confrontare con questa gente. E perché? Qua. È così. La gente normale! No, non è la gente, è normale. La gente normale! Questo è l'errore che tu commetti. E questo errore. È il motivo per il quale i sovranisti hanno la maggioranza in questo paese. No, è il motivo per cui voi non avete più i voti! Perché tu, io non il motivo per voto. Cui non volete non andare a votare! Mai è questo! Perché c'è gente che vota così. Ma io non mi c'è sono mai candidato. Io faccio un altro mestiere, faccio il giornalista, invece, racconto faccio? Delle storie. Io che faccio? Tu fai il cantore del sovranismo, che è un mestiere diverso, nobile. Nessuno dice che tu sia un criminale. Nessuno dice che tu sei un criminale, che vai messo, vai impiccato, vai messo alla garrota, per dirla con un termine medievale. No! sei il cantore della Nouvelle Vague. Quando vai? Della Nouvelle Vague. Sei il cantore di questi nuovi tempi. E io sono l'eretico, quello che sta in disparte, che prova a dire l'eretico, attenti. L'eretico. Sì, quello l'eretico. Che prova a dire attenti che in questo Medioevo arriverà il secolo dei lumi. Per ora siamo nel Medioevo, in cui c'è gente che telefona, che dice che si masturba sotto l'ascella, che fa la pipì nei lavandini, che non si lava in... Sembra tutto normale, che vende sex, cose per orgasmi, robe, eccetera, eccetera. Mi pare normalissimo. Insomma, comunque, no, avete sentito il collegamento da Roma? C'è ovviamente David Parenzo. Amici cari, buonasera, applausi. Qui a Milano, grande sorpresa, Alberto Gottardo. Eccolo. Pronto già a prendere... espulso dalla maggioranza, sì, silenziosa, certo. Già espulso. Beh, ho rischiato di essere espulso Busillis. Anche da Vittorio Sgarbi. 49 insulti in 10 minuti. No, 59 record. 59. Se quel record verrà mai battuto. Allora, ragazzi, iniziamo col signor Piffa. Infatti, quando sono depresso, riascolto quella sequela di insulti. Sì, mi bisognerebbe fare un podcast apposta da scaricarsi. Un'app, lascia stare i podcast. Dai. Ma in fondo, ma che serve i podcast nella modernità? Dai, no, cosa serve il podcast? Dai, è inutile. Allora, voglio partire dal signor Piffa. Perché Piff, dici parlo Piff? Non se ne Andrà sentiva parlare. No, fermo tutto, lì. Non se ne tutto. Non se ne grazie sentiva. Grazie Piff. Giù il microfono un attimo, che mi ha rotto il cazzo. Giù il microfono. Mi hai rotto il cazzo con questa cosa. Mi lasci parlare, poi dici quello che ti pare. Cioè, vuoi dire sempre tutto tu. Allora, non si sentiva parlare di Piff da credo qualche mese, eccetera. Non è vero. È rispuntato così all'improvviso. E come mai è rispuntato? Perché ha detto grazie alle sardine. Oh. Lo sai perché ha detto grazie alla zia? Sì, perché certo. Mi sento meno solo. Meno solo. Meno solo. Cioè, scendere in piazza, bravo, è meraviglioso. Sì. Di colpo mi ritrovo tra tanta gente che ha voglia di manifestare, normale, perché non si riconosce in una certa politica. Normale. Mi sento meno solo. Meno solo. Cioè... Ma come cazzo si fa a dire una cosa? Ma questi di che ti piacciono le sardine? Le sardine punto incarnano basta. Questo sentimento. Non mi collettivo. Sento meno solo. Meno solo, meno solo. Ma meno vai solo a quel paese, vai. Porro su Piff, dai. Porro su Piff. Porro, l'altro cantore. Cosa avresti detto se Porro fosse stato legittimamente sul palco dell'Ariston insieme viva a Rula Gebreal? Avrei detto Porro. Che cosa viva avresti detto? Porro a fare un monologo facendo Porro. Accanto a Rula Gebreal. È una persona almeno elegante, a differenza di Meluzzi, questi qua, è una persona elegante. Avresti Porro, fatto un casino, solo, avresti detto che è il portavoce dei sovranisti, vergognati. È uguale, è meglio di Rula Gebreal. No, Porro intanto porta solo cravatte Hermès e vestiti di ottimo taglio sartoriale. Io un sacco di amici miei che si farebbero più volentieri Porro di Rula Gebreal. Appunto, sono amici tuoi, mica miei. No, ma Porro è un ottimo, è un liberale che ormai deraglia un po' verso il sovranismo, è un liberale e ha dei vestiti di taglio sartoriale. Dei vestiti di taglio sartoriale meravigliosi. Va in vacanza a St. Moritz. È incredibile, gli piacciono, gli piacciono questi qua. Ma vedete, guardatelo. No, è meraviglioso perché Porro, che è un sovranista, gioca un po', fa il sovranista, che non lo è, un liberale, quindi gioca però a fare un po' sovranista. Va a dei tagli di vestiti sartoriali Porro meravigliosi. Porro a Sanremo. Io voglio Porro a Sanremo. Sì, faccio questa campagna. Porro a Sanremo. Sì. Fermi tutti. Piff, sapete chi è? L'uomo che tutti quanti voi ascoltate sulla mafia e non solo, si sente meno solo, perché ha trovato finalmente il posto che gli spetta, stare sul palco delle sardine nella prossima manifestazione. Mi sento meno solo con le sardine, questo dice Piff, se si sente solo lui, insomma, troviamogli una fidanzata, direi. Una roba incredibile, una roba incredibile. Mi sento meno solo con le sardine. Ma dico, ma come cazzo, ma come campo uno si sente meno solo con le sardine? Ma dai, su. Non me lo devo dire, no? Santuzzo, Santoro c'è anche, San Cazzo, San Minchia, che ha detto? Ah, dice l'ospita sardina. C'è un'iniziativa, ragazzi, io non ce la posso fare. Ma questa roba qui, ma gente che ha militato nei comunisti, i comunisti veri, e Gottardo li conosce, i comunisti veri. Ma questo Santuzzo, che gli avrebbero fatto a sto Santuzzi, i comunisti? Un monumento. Ma cosa avrebbero un fatto? Monumento. Avrebbero questi fatto comunisti un veri, l'ospita sardina. Ma fa bene. Ma che cazzo è l'ospita sardina? Ma io avessi una casa a Bologna, ospiterei un sacco di sardine. Ma fare lo sugar daddy delle sardine. Io a Bologna, capisci? Arriva ne prendi 5 o 6 di quelle, insomma, giovani ed idealiste, e dici venite qua, c'ho anche il fronz corta in fresca, e insomma qualcosa succederà dopo la grande assemblea. Proprio un maiale, semplicemente un maiale, è una cosa incredibile. Ciao a tutti, siamo qua con Giulia Trappoloni, volto femminile delle Sardine. Ma questa Giulia Trappoloni? Per spiegare il Sardina, ospite Sardina. Non ridere, è una cosa seria da andrà in mondo Giulia visione. Trappoloni. Eccola qua. In mondo, ma questo te chi cazzo vedere. Si sente? Non ho capito. Ma chi si sente questo andrà in mondo visione? Ma chi cazzo sei? È ironia. Giulia Trappoloni, ironia. Giulia Trappoloni. Guardala, non niente male. Ma cambia il cognome, Giulia Trappoloni. Cos'è Sardina ospita Sardina? Allora, che nessuno l'ha capito. Sardina ospita Sardina è un evento che abbiamo organizzato per accogliere le sardine di tutta Italia in Emilia Romagna. Gli abitanti appunto di questa meravigliosa regione aprono le loro case. Emilia Romagna, anche se lei è toscana. Esatto, aprono le loro case a tutte le sardine d'Italia che vorranno venire a scoprire questo meraviglioso territorio. Ma perché non vi pagate l'albergo? Pagatevi l'albergo. Ma perché è lo spontaneismo? Ma pagatevi l'albergo. È lo fare comunità. È lo spontaneismo. Pagatevi l'albergo. C'è Giulia Trappoloni che senza casa tu gli dai Trappoloni. Il divano, anche il letto tuo. Giulia Trappoloni. È il bello di questa idea sana, pulita, certo. Attivismo civico di far politica. Sì. Questo è il senso. Il weekend del 18-19 che finirà con la grande manifestazione culturale di Piazza 8 Agosto. Bellissimo. Esatto, cioè sabato questo. Vabbè, sti cattivi, e quindi l'obiettivo è che... Mi hanno telefonato dando per scontato che sposassi la causa e hanno fatto bene. Finalmente mi sento meno solo. Di colpo mi ritrovo tra tanta gente che ha voglia di manifestare perché non si riconosce in una certa politica. In America su questo ci avrebbero già fatto un film. Questo Piff, questo, Piff ha ragione. Questo sempre avuto il cervello. Scendere in piazza è meraviglioso e importantissimo. Vero. Perfino che la mafia temeva le piazze. Questo perfino è vero. Perfino la mafia temeva che le piazze. La mafia, dunque, c'è da combattere. Piazze. Addirittura il paragone non è fatto casualmente, no? Cioè non è una cosa casuale. No, dici, questi ragazzi sulla mafia, hanno fatto vero. Tornare le persone sì, a manifestare esatto. In un'epoca in cui il massimo sforzo è mettere un like. È vero. Amico Piff, le manifestazioni ci sono sempre state su no. Qualsiasi cosa, sempre, sono tornati, sempre in ogni epoca. Non sono, diciamo cazzate, sempre state piazza, le manifestazioni. L'Italia è il posto piazza. Delle manifestazioni in piazza da secoli. Ragazza nuova o comunque recente, andata in bagno, ne approfitto per scorreggiare come un diavolo. E siamo al top. La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Una tipo un pina che da gravate che da caglio tutte cose, è vero pare? È vero? E Gottardo ne sa qualche cosa, Gottardo, davanti quando fai la trasmissione a Padova c'era qua allungava le mani a destra e qua allungava le mani a sinistra e depravate per i vestiti tutte due. Cosa dovrei sapere io? Non ho capito un cazzo di quello che ha detto. Aspetta. Tu webcam non c'è nera, minchia, vi faceva i servizietti a vicenda. Tu e dopo il callavato ricottato, tutte due. Non mi contate giusto, non mi contate. Vi maneggiate a vicenda, vi piace allungare le mani e giocherellare. Depravati. Ringrazio Pietro Lacorte per la traduzione in simultanea. Questa persona mi farà prendere un volo low cost per Palermo e lo vado a cercare per quello che ha detto. Ha detto semplicemente che tu e Parenza moreggiavate in diretta ma quando lui era. Ma pensa che fantasie morbose che c'è mamma questo mia. Povero cretino. E potrebbe scattare anche una querela. Non insultare il grillino palermitano. Adesso l'altro subito ex vuole querelare. Già farsi dare del grillino per me è quasi un insulto. Poi, insomma, questo qua evidentemente. Allora, nella grande battaglia contro il fascismo. Il puzzone, il razzista, il fascista, il lo xenofobo. Aspetta, Salvini entra in campo pure Ivano Marescotti, attore di lungo corso, residente però a Ravenna. Comunque voterà in Emilia Romagna. Ravenna, che è la che città, fa... ti ricordi di chi, no? Ma non lo so, di tante persone. Comandante Bulov, grande comandante partigiano, comandante Enrico Boldrini, tante grande persone, senatore, partito comunista italiano, comandante Bulov. Ma che c'entra adesso? Ma guarda chi è, guarda la biografia. Ma lo so benissimo chi del è. Comandante era Bulov. Era un tantinello comunista. Comandante quanto è buono! Era un tantinello comunista. Mamma antidemocratico. Mia, ho avuto l'onore di conoscerlo io. Mi sa che aveva anche un tantinello sulla coscienza della gente. Sì, esatto. Effetti collaterali. Così. Effetti collaterali, li chiama Lorenzo. Comandante Bulov. Qualche persona che non c'entrava un cazzo con i fascisti, credo, abbiamo combattuto assieme per riconquistare la libertà per tutti. Ma sei del 76, per chi c'era, cosa hai combattuto, per chi non cosa? C'era, hai combattuto la forza e l'acme contro, tu, al massimo. Disse Arrigo Boldrini, in arte cosa? Nome di battaglia, comandante Bulov. Ma non hai combattuto al massimo, al calcio balilla hai combattuto. Abbiamo combattuto assieme per riconquistare la libertà per tutti, diceva il comandante, per chi c'era. Ma era comunista, non voleva la democrazia. E anche per chi era contro. A me vengono i brividi quando rileggo la frase del comandante Bulov. Mi vengono i brividi. Delle vittime, cosa i gli brividi. Viene, cosa gli viene. Quali vittime? Quali? Neofascisti, nazisti. Gente fucilata a cazzo. Nazisti. Allora, Marescotti, stavo dicendo. Marescotti. Abbiamo combattuto assieme per conquistare la libertà. Non per tutti. Per chi c'era. Parenzo, per chi non c'era. Combattuto in vita e tua. Per chi era non contro. Non hai mai combattuto in vita tua, Parenzo. Comandante Bulov. Ma perché è impazzito, comandante? Perché? Un gigante. Sono Ivano Marescotti. Allora? Mi rivolgo agli elettori dell'Emilia Romagna che andranno a votare il 26 di gennaio, fra poco. Andate a votare questa volta. Bisogna andare a votare perché c'è il rischio che vinca la Lega di Salvini, con la Bergonzoni che diventerà la presidente. Però vorrei fare capire all'amico Marescotti, attore, per carità, anche nel film di Zalone. Però, caro Marescotti, è la democrazia. Può vincere uno, può vincere l'altro. Se c'è una competizione democratica, se vincono alcuni, non è che arriva Hitler, non arriva Mussolini. Che cazzo, dai! Voi ve le immaginate, io non me l'immagino. Non è che bisogna votare per il meno peggio, bisogna votare contro la cosa peggiore che possa capitare. Essere governati dai leghisti, che è uno dei peggiori partiti, neofascisti, razzisti, xenofobi, europei. Quindi, per favore, andate a votare, poi faremo i conti con Bonaccini, ok? Sai perché succedono queste cose qua? Perché c'è crisi. Se Piff e Marescotti avessero un film da fare, no, non romperebbero le balle con la politica. Non sa, ma che c'entra? Ma qual è? C'è sempre stato l'impegno civile degli attori, degli artisti, sempre stato. Che vadano a fare i film, è miglior impegno di quello, che vadano a teatro. Ma perché non glielo dice a Mel Gibson? Mel Gibson che appoggia l'ultradestra. Ma come no? Appoggia l'ultradestra reazionaria. Ma scusa, ma la stessa cosa dovresti dire Mel Gibson. La barzelletta del momento, lo sai qual è? Zingaretti, che dice che questo governo ha salvato l'Italia, ti giuro, l'ha detto. Da questo cosa? Governo ha salvato l'Italia. Zingaretti. Salvato l'Italia, no, ma senti, cosa? Zingaretti dice: grande barzelletta, questo governo ha salvato l'Italia. No, semplicemente uno si è suicidato al papete, cioè si è suicidato politicamente al papete, ha fatto un atto di coglioneria politica perché politicamente si è dimostrato un coglione e vi ha regalato il governo. Non ha salvato nessuna Italia questo governo. Non c'era da salvare un cazzo. Questo governo ha salvato l'Italia, le persone, le imprese, le istituzioni da una catastrofe economica, sociale e culturale. È stato detto da molti. Una roba incredibile, ragazzi. Una roba incredibile, incredibile. Però io andrei subito a quelli che Parenzo ama particolarmente, gli ascoltatori di questa disgraziata trasmissione. Partirei da Gianluca da Ragusa. Andiamo, avanti tutta, Gianluca. E allora, ciao Giuseppe. Io intanto vorrei spiegare, alzo un attimino la radio, la differenza che si parla di queste persone che arrivano oggi, questi immigrati, si paragona la nostra immigrazione del sud a loro. E fanno male. I siciliani hanno portato la mafia in giro per il mondo, gli africani almeno non portano la mafia. Per esempio. C'è la mafia nigeriana, come no? Aspetta, io sono l'ultimo di 7 fratelli, fra cui Che vuoi dire, Gianluca? Andiamo al soldo, allora, che vuoi dire? Amico mio, dai. Allora, noi siamo una famiglia che siamo immigrati a Genova. Dopo 3 giorni avevamo tutto il lavoro, ci comportavamo decorosamente. E dunque? Don Luigi ci ha fatto trovare la casa, gli abbiamo fatto trovare la casa ancora più bella per com'era. Ora, io sono tornato in Sicilia, ritorno a Genova, invece trovo un'immigrazione che apri la cronaca e trovi tutti e nigeriani arrestati, questi tutti spaccio di droga, quello, l'altro. Come i siciliani? Sono tornato come i siciliani, in Sicilia. Come lei? No, ma scusa, come mai in Sicilia apri la cronaca di Catania, apri oggi la cronaca di Catania, come mai non ci sono nigeriani arrestati? Perché è un posto dove non c'è lavoro, non c'è lavoro, non e c'è quindi lavoro. Persino lei è andato via, perché lei non torna in Sicilia, a Ragusa, invece di rompere i coglioni agli immigrati a Genova? Perché non torna nella sua terra, visto che ama così tanto la Sicilia? Ci torni stabilmente. Così lavorerà un genovese al posto suo. Ci faccio la collana e ci inizio o sabotaggio. Mi parli in italiano, abbia pazienza, non ho capito un cazzo. Com'è l'espressione? In arabo. Stai calmo, allora, altrimenti? Lasciamo stare, certe cose non le voglio dire. Però, mi stacca le dita, lo faccio con lui, la collana. Il signore, cioè che a lui gli piace il ciuffo di Renzi, no? Ma non cioè, nessuno il ciuffetto, uso purpeggia, no? Era così, e lui ci piace. In italiano sarebbe? Andrea da Reggio Emilia, vai Andrea. Sì, Cruciani, io ogni volta che chiamo parlo sempre educatamente, ma adesso hai rotto proprio le palle. Ma su che, scusa, su che cosa? Ma sai, questo è l'esordino, ma sai perché? Cioè, sei un qualunquista che cerca di gettare sempre merda su ragazzi che non hanno più un'identità politica. E tu Andrea, non ho capito niente, nulla, perché si sente poco. Dunque, una grande Andrea, battaglia non a favore delle sardine. Stai criticando che cosa? Il fatto che io attacco le sardine? Sì, ma basta, cioè qual è il senso? Sai perché dicevo? Perché non dicono un cazzo, mi stanno sui coglioni perché non dicono un cazzo. Perché, sono perché il nulla più assoluto, il nulla più totale. Vabbè, io potrò non dire un cazzo, merda, ma non getto merda su nessuno. Non hanno un'identità. Ragazzi, ma non è che sono tutti ragazzi, c'è gente di 70 anni che va in piazza, che cazzo stai a dire? I ragazzi, ma quali ragazzi? I ragazzi di che? C'è gente di 70 anni che va in piazza, non sono solo ragazzi. Basta con questa cosa, i ragazzi. Ma chi se ne frega? Un'identità politica, chi l'ha persa? Ma non dire stronzate, tutti slogan. Ma nei valori di Salvini del Io non mi ritrovo in nessun valore, hai capito? Ma faccio il cazzo che voglio, posso criticare o no? Di potersi creare una propria storia. Fermo là. Pubblicità. Valorizza i tuoi risparmi con Kebanca. Con conto deposito hai l'1% annuo lordo sulla nuova liquidità vincolata 6 mesi entro il 29 febbraio 2020. Interessi in anticipo. Fogli informativi su kebanca.it. Kebanca. Gruppo Mediobanca. Benvenuti nel simulatore di viaggio F24. Elaborazione dello scenario desiderato. Per fortuna il futuro è più avventuroso di come lo avevano disegnato. Range Rover Velar, oggi tua da €550 al mese con Land Rover Leasing, anche per privati. TAN 395, TAG 465, salvo approvazione della banca, info su landrover.it. Maestro SD-One, aiutami! Le reti della mia azienda stanno passando al lato oscuro! Non temere, ecco la tua arma. La fibra intelligente di Iridios. È intelligente perché ha sempre tutto sotto controllo. Accessi, cloud, applicazioni. Si integra con tutte le tecnologie. ADSL, fibra, wireless di qualunque operatore. E poi si attiva in un laser. Volevo dire in un lampo. Vai su fibraintelligente.it. Fibra intelligente. La soluzione SD-One di Iridios. Il nuovo polo ICT italiano dedicato alle aziende. Che programmi avete per quest'anno? Io vado a ritrovare me stesso in Asia, India, Giappone, Corea. Io sogno un safari in Sudafrica. Per me un weekend in Europa. Big Ben, Tour Eiffel, Plaza Mayor. Con Alitalia Smile Days viaggiare è contagioso, come sorridere. Solo fino al 22 gennaio tutte le nostre destinazioni in offerta a prezzi davvero imperdibili. Ad esempio India o Sudafrica da €419 andata e ritorno tutto incluso, anche il bagaglio. Info e condizioni su alitalia.com. Fai già accesso ai dati di Banca d'Italia. Da oggi puoi essere sempre connesso e presidiare gli affidamenti accordati dalle tue banche. MF Centrale Risk aggiorna automaticamente i dati della centrale rischi effettuando le analisi tipiche delle banche. Potrai visualizzare i grafici in CR, i fidi accordati, gli utilizzi, gli sconfini e tramite l'app riceverai le notifiche delle anomalie rilevate. Richiedi una dimostrazione su mfcentralerisk.it. mfcentralerisk.it, una garanzia Milano Finanza. Tuta? C'è. Guanti? Anche. Paraorecchie? Due paia. Ok, andiamo pure al lavoro. Un vero professionista non smette mai di esserlo, nemmeno quando la temperatura scende a zero. Se scegli un veicolo Fiat Professional a gennaio, anche l'anticipo va a zero. Acquistalo ora e inizia a pagarlo ad aprile. Canone da €139 al mese, TAN 3,80, tasso leasing 3,88. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 gennaio. Info su fiatprofessional.it. Allora, Facciamo che io ero un architetto insieme a Sara, che è brava a disegnare, e viaggiavamo dappertutto e avevamo tante spese, le fatture da pagare, le trasferte. Ma forse questo mese possiamo posticipare i pagamenti, così ci concentriamo sui nuovi clienti e facciamo crescere il nostro business. Fai diventare grande la tua piccola impresa. Scegli carta Oro Business American Express e scopri i vantaggi per il tuo business. Richiedi la su americanexpress.it per te fino a 250 euro di sconto sulle spese aziendali. Messaggio promozionale info su americanexpress.it/business. La zanzara. Il sovranismo è una cosa tremenda perché non ha cultura, questo è il problema. Quando Nietzsche dice quando l'umanità diventa gregge vuole l'animale capo, questi sono fenomeni seri. Eccoci. Cioè uno si fa 12 canne al giorno e fa l'autista? Ammazzati, coglione! Ammazzati, coglione! Comunque può essere normale farsi 12 canne al giorno. Cioè adesso che ore sono? Le 2? Io me ne sono già fatte 2, adesso finisco così, mi prendo un caffè, me ne faccio una terza, siamo a 3. Poi fra un paio d'ore me ne faccio una quarta, poi prima di cena cosa fai? Non te la fai una quinta, e poi dopo cena ci vuole la cannetta dopo cena, 6. E poi a quel punto dipende come va la serata, cioè per esempio metti che vengono degli amici e allora cioè ogni mezz'ora una te la fai, e quindi 3 ore e altre 6, 12 canne mi pare piuttosto normale. Ciao, sono Valentina Nappi. A proposito di porno, caro Parenzo, come dimenticare quello che è accaduto ieri sera in questa disgraziata emissione radiofonica? In questa disgraziatissima emissione radiofonica. Ricordo perfettamente. A un certo punto, dopo le 20, diciamo le 20:06, una signora anche rispettabile. Nel chi era? Suo... Chi era la signora rispettabile? No, ma che c'entra quella? No, la venditrice di sex toys. Non c'entra niente. Ah, no. Cosa? Ma quanto è ingrassato Gottardo? Chi? Lo vedo dalla telecamera di servizio. No, ma non è ingrassato, ma che cazzo? C'è una panza pazzesca. Ma che dici? Ma è diventato un botolo. È sempre stato piuttosto costoso. No, però vedi, telecamera, vedi, povero Parenzo. Alzati i piedi. È la dimostrazione. Quanto mi alzo sei grasso, i piedi. Alzo i piedi, ho perso 4 kg dall'ultima volta che siamo visti. Ma non dirlo, chi è il dittore, perché lo arrestano. State amoreggiando. Quando tu, povero codardo, povero codardo che non sei altro, il 6 di gennaio mi sei stato di fianco per 2 ore. Ma col cazzo che mi dici questa cosa qua? Perché tu sei debole con i forti e forti. Meno, passerò a Roma a lavare nel sangue questa offesa dalla telecamera che tu di servizio sei diventato un adorabile ciccione. Ma proprio ciccione, una panza pazzesca. Guarda, mi peso la prossima volta che vengo qui e ti dimostro con i numeri. Di servizio, dimostro con i numeri che ho perso. È la televisione che ti ingrassa. È la televisione che ti ingrassa. Purtroppo la televisione ingrassa e non rende più intelligenti come tu puoi testimoniare. Se volete terminare questa augusta conversazione sul peso di Gottardo, anche tu Parenzo, diciamo, non è che sei proprio un figurino, diciamo, certo, no? Ha smesso di andare in palestra dopo un mese e rompe i coglioni a me. Sbagli proprio, perché proprio stamattina, guarda, sono tornato, guarda, sono anche in piedi, sono anche dalla dietologa. Che dice infatti, il tigre? Che dice il tigre? Tra l'altro, Parenzo posso anche spogliarmi, è alto uguale quando è seduto e quando è in piedi. Posso anche spogliarmi, facci vedere la panza, dai, facci vedere la panza, il che cosa? Il bicipite. Facci vedere la panza, sì, facci vedere la panza, facci vedere l'addominale. Facci vedere l'addominale. Tutto in diretta, poi, chiaramente puoi farci vedere la panza in radio, è bellissimo roba, da dire. Pensa che interesse hanno quelli che sono in auto, guarda, di fronte in auto, alla tua panza. Voglio farti vedere, perché stamattina proprio il mio, io ho l'istruttore dietologo, tutto che paghi, no, che no, paghi a caro prezzo. No, istruttore privato, però il TIC, allora. Ma adesso stai tirando i muscoli. No. Sì, ma dai, respira ogni tanto. Respira, dai. Parlo, non stai respirando. Parlo e respiro. Allora, ragazzi, è un fisico invidiabile. Ci sono le fisico invidiabile da chi? Togli la camicia direttamente. Ma no, quella no, perché comunque un fisico invidiabile da Mauro da Mantova, probabilmente. Ti assicuro che intanto ho perso 3 kg, ma sto mettendo su. Quanti ne hai persi? Massa muscolare sto mettendo su. No, apri. Mi chiamano tigre. Ma sembri fascino basso. Mi chiamano il avevi messo massa muscolare, cosa? Ma anche sto facendo proprio pesi e palestra, perché per combattere il fascismo bisogna anche mettere su un po' di muscoletti. Ma poi muscoletti cosa? Qui, sifilitico qui, anche sei. Qua sopra, guarda che roba, ormai facciamo una cesta di ferro una volta. Non c'è sentire pancia. Il rumore non batti con la pancia. No, non c'è pancia, non c'è pancia. Non c'è pancia, sicuro. No, non c'è. A proposito di vedere, potrei farti vedere io invece, Cruciani, che ho dovuto depilarmi il pube. No, no, quello ed è una sensazione fastidiosissima. Sentirei. Ti prude, beh, lei basta che ti tagli i capelli. Vai, risolto il problema. Tu cioè, ti sei depilato sul pube, non ho capito. Sì, completamente perché depilato. Ti sei depilato intorno allo cielo. Per motivi che non caso. Posso svelare, ma. Ti sei depilato intorno allo cielo. Vuoi vederlo? No, non lo voglio vedere. Ma è una cosa, guarda. Sembra una quaglia. Sembra una quaglia. È una cosa. Lo sai che la gente lo fa? Lo sai che un pulcino bagnato. La gente lo fa per pensare che di avercelo più lungo. Ma no, vedo. Sì, effettivamente sì. Sembra ma non ti preoccupare, più con quella massa di grasso, per forza, anche uno spillo allora, sembra un albero. Vi ripeto, ieri dopo le 20:00, dopo le 20:07, grande scontro Max Felicitas Rocco Siffredi. Però scusa, aspetta Max, perché ha chiamato Rocco, aspetta, ha chiamato Rocco. Ci vuoi parlare? Max. Grande Max, cosa? Grande Max. Ciao Rocco. Dimmi, senti, Rocco. Max, se mi ascolti solamente un minuto, allora innanzitutto lasciamo perdere la parte gay, però parliamo in maniera veramente seria e sincera. Tu hai iniziato proprio a Zara dicendo le tasse vanno pagate in Italia, Siffredi dovrebbe pagarle in Italia, ma sei un autentico imbecille, perché per prendersi ma imbecille sarai tu, vecchio e imbecille, non è un insulto. Io sono da 25 anni a Budapest, certo. Produco la società qui e devo pagare le tasse in Italia, certo. Tu sei stato da me a Budapest, ti ho lanciato io, non ti vergogni neanche a dire che non sei venuto da me, poi cominci a dire, ho visto una news che dici Rocco si è permesso di mettere queste due ragazze insieme a 70 ragazzi, tu vieni a fare la morale no, tu non hai capito quello che finire per lo... no Max, non fare il furbo, tu e Di Pre che avete lanciato verso i ragazzi, che parli di conoscere i ragazzi giovani come fare il porno, cocaina. Ma che cazzo dici? Io non mi sono mai creato in vita mia, sapere, ma ritirati. Hai la demenza senile, ma che cazzo stai dicendo? Max, che cazzo stai dicendo? Ma non permetterti di pagare il mio nome così, io non è. No, scusami Rocco, però tu stai dicendo che lui drogo. No. Che cazzo stai dicendo? Non ha detto che allora. Ritirati, allora, vecchio. Max, calma un attimo, dimmi Rocco, dimmi. Max, io ho 55 però lui dice anni, di non aver mai fatto uso di cocaina, però. No, lui dire, ha detto di non aver mai fatto uso di cocaina, però, Rocco. E l'amichetto suo, i tre... Ma che cazzo c'entra Di Pre? Io da due anni che non vedo Di Pre. Ma vai a cagare, ma non dire stronzate. Non dire stronzate. Non dire stronzate. Però lasciamo perdere queste cose che io non le conosco. Quello che dispiace che le ragazze che recluta lui, che non ha nessuna storia e nessuna produzione, gli promette di fare le star fino a quando fa la scena con lui, poi cadono nel dimenticatoio. Ma vai a cagare che le ultime ragazze le ho lanciate io, e se non ci sono io tu neanche lavori. Vai a cagare, ma che cazzo dici? Ma non credo, Max, non credo che non lavora. Aspetta, Max, non credo che non lavora. Non credo che non lavora se non ci sei tu, però, Max. Ma ti rendi conto cosa mi stai dicendo? Che io parlo di droga? Quando mai ho parlato di droga? Ma che cazzo sta dicendo sto qua? Qua ci sono rincoglionito. Tu e il tuo amico Di Pre avete fatto tanti video così, poi la Smeraldi. Ma che cazzo c'entra Di Pre? Io sono comunque vecchio, hai ragione, questo non ti posso dar torto. Ho un solo problema, il cazzo mi tira sempre, che devo fare? Però con tutta la Viagra che ti prendi, è ovvio, ma tutta la Viagra che ti prendi, e ovvio. Questa è diffamazione, Senti, no, non è diffamazione, perché io Cruciani, tutti lo prendono, dai. Te la lancio qui, Cruciani, te la lancio qui. Dimmi. Invita l'amichetto tuo lì davanti. Sceglie la donna da te in radio, voglio vedere se hai coglioni. Io non lo farei. Scegli la donna, a me mi metti una vecchia di 90 anni senza denti con la dentiera. Beh. E me la inculo e mi inculo pure lui. Beh, e lui inculo insieme alla vecchietta. Fineco, la banca. che semplifica la banca. Vi presenta... Al mattino il latte incontra la genuina fragranza dei biscotti Duemi. E nel pomeriggio il tè reclama. Dove sono i biscotti Duemi? Dove sono? Che buoni i biscotti Duemi. Il successo è degli innovatori, di chi guarda oltre e vede nel cambiamento un'opportunità, di chi per primo ha applicato l'intelligenza artificiale per pianificare i turni del personale e offrire sempre il meglio ai clienti. Come Piero Pisoni, HR Director di Penny Market. Penny Market ha scelto Infinity Zucchetti per la gestione dei propri collaboratori. Perché gli innovatori scelgono Zucchetti. Zucchetti, il software che crea successo. Promo Miau! Questo mese sconti fino al 50% sul Grass porcellanato. Promo Miau! Prima non c'era, ora c'è. Negozi Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Iperceramica.it. Miau! Lo sai, ho un'auto nuova, un nuovo contratto di telefonia, una nuova banca e presto farò una vacanza da sogno. Hai vinto la lotteria? No, mi sono associato a Confcommercio. Tanti servizi e condizioni vantaggiose per farmi risparmiare e rendere la mia impresa più competitiva. Vai su associati.confcommercio.it. Confcommercio, tua, sua, di tutti. Cerco donna sexy, tenera e divertente e avventurosa e amante del calcio, ma che mi faccia anche un po' da mamma. Se vuoi sempre di più, scegli Fiat. Solo a gennaio tutta la gamma è a piccole rate con anticipo zero. Ad esempio Panda da 99 euro al mese per i primi due anni e poi da 134 euro al mese. E con l'assicurazione Make Up i piccoli danni non sono più un problema. Ci pensa Fiat. TAN 6,45, TAEG 9,39. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Fino al 31 gennaio. Info su fiat.it. La Zanzara. Purtroppo, mea culpa, sto ascoltando solo adesso la trasmissione di mercoledì, quella dove c'era Simona, la ragazza cicciona. E volevo segnalare che appunto io sono uno di quei cultori del grasso, cioè mi piacciono le ciccione, ci provo con le ciccione, mi piace scopare con le ciccione. E ho cercato foto di Simona su internet, ma purtroppo non le ho trovate, quindi se mi fate avere almeno un riferimento fotografico, magari sono io interessato ad approcciare con la Simona e diciamo mi immolerei volentieri per il popolo della Zanzara. Non c'è problema. Questa tizia da 130 kg che vuole ingrassare ancora di più lo può fare tranquillamente, ma si paghi un'assicurazione sanitaria privata, perché io non tollero che i soldi che io pago con le tasse finiscano alla sanità pubblica per curare lei, quando arriverà al punto di essere talmente grassa che fai prima a saltarla che a girarci intorno. Per cui non so che cazzo faccia nella vita, non so quanti anni abbia, non so se prende il reddito di cittadinanza, ma ti paghi un'assicurazione privata e quando non riesci più a muoverti vai alla Fleming, vai in una cazzo di clinica privata. D'accordo? Ragazzi, ce l'hanno tutti con questa qua, che abbiamo intervistato l'altro giorno, questa ragazza di 120 kg che vuole ingrassare sempre di più, Simona, da Milano. Ma non capisco perché uno non può fare il cazzo che vuole. Sì, va bene la sanità, ma che vuol dire la sanità? Cioè pesa sulla sanità, l'obesità, d'accordo? Sicuro. Ma voglio dire, qual è il punto? Bravo. Sì, ma qual è il punto? Che uno non può ingrassare perché altrimenti pesa di più alla società? Volontariamente però fa presagire che c'è anche un problema di carattere psicologico, per cui io credo che il sindaco di quella città potrebbe anche decidere, in nome della sanità pubblica, di farle fare un giro in psichiatria a questa signorina, in maniera da controllare che magari non abbia delle turbe tali per cui già pesa oltre i 100 kg, vuole arrivare a 130. Io che sono sul limite adesso dei 100 kg, perché ne ho persi parecchio, allora voglio andare sotto. Uno non vuole mai ingrassare, ma non è normale voler ingrassare. Ma sì, se uno si vede bello più grasso, saranno cazzi suoi o no? Ha una turba, come uno si vede grasso quando è magro e si chiama anoressia, così c'è anche una malattia contraria che è appunto quella di voler ingrassare sempre di più. Meanwhile, cosa accade in Friuli Venezia Giulia? Frattanto. Cosa accade in Friuli Venezia Giulia? Il governatore Fedriga insieme all'assessore alla sicurezza che si chiama Roberti, propone di... C'è un assessore regionale alla sicurezza? Alla sicurezza, sì. Questa fa ridere. Ma cioè, la regione si occupa di sanità, si occupa di caccia, di pesca, di economia, di sicurezza, cosa? C'è la polizia regionale? Non c'è la polizia regionale. Cosa cazzo fa l'assessore alla sicurezza? Cosa cazzo fa? Non è una competenza della regione la sicurezza! Non lo è! Posso essere d'accordo. E gli paghi lo stipendio a uno per non fare un cazzo. Non fa un cazzo l'assessore alla sicurezza. Non fa un cazzo. In tutte le giunte di centrodestra c'è l'assessore alla sicurezza. Ma perché? Ma perché non gli dai? Ma perché non fanno l'assessore al traffico aerospaziale, allora, già che ci siamo? O ai marziani? Fai l'assessore ai marziani. Lavorerà di più l'assessore ai marziani. L'assessore alla sicurezza. Allora, sarà alla conferenza di Berlino. Ma chi sta non che prende uno stipendio l'assessore alla sicurezza? Allora, ti rendi conto? Chiama l'assessore alla sicurezza. Io fossi in Fratelli d'Italia, nominerei generale Haftar. Risolvi tutti i problemi. Metti Haftar assessore alla sicurezza. Da pazzi. Allora, l'assessore alla sicurezza. Che cosa vuole fare l'assessore? Che cosa vuole fare questo signore? Non è una competenza regionale. Mi fai dire la proposta? Siamo pronti ad acquistare delle fototrappole per individuare i transiti degli immigrati. Per catturare, tra virgolette, gli irregolari. Fototrappole, come fossero dei topi. Installare delle fototrappole. Fototrappole sono neri, per cui non vengono neanche bene di notte. Flash devi usare per fotografare un africano di notte nel bosco del Consiglio? Non capisco perché ve la prendete tanto. Soldi sprecati. Con delle persone che vogliono impedire a dei clandestini. Ma non impediscono un cazzo di arrivare. Sì, non impediscono un cazzo con le fototrappole. Mettete le mine anti-uomo. Siete contro gli africani. Allora dovete fare le trincee, le mine anti-uomo e i lanciafiamme. Altrimenti non serve a un cazzo. Va bene? Mettete le mine anti-uomo. Mettete dei mitragliatori automatici per sbudellare i profughi che passano. Le fototrappole non servono un cazzo. Assessore a questo paio di coglioni. Io le faccio un appello: faccia saltare in aria i profughi che passano in Friuli Venezia Giulia, oppure si dimetta, che sta prendendo uno stipendio per niente. La regione Friuli Venezia Giulia è pronta ad acquistare fototrappole. Deve acquistare da mine. Posizionare sui sentieri. Io voglio il napalm. Da posizionare sui sentieri. Voglio il napalm. Stai zitto un attimo, sui sentieri in prossimità dei confini per individuare in tempo reale i transiti di immigrati irregolari. Che cosa fanno? Sistemi di rilevazione ottica trasmetterebbero i dati raccolti all'amministrazione regionale e alle forze dell'ordine, permettendo così interventi mirati e aumentando il numero di riammissioni, in particolare verso la Slovenia. Si tratta di apparecchiature poco costose che, grazie a specifici software, possono essere tarate per individuare solo la presenza umana. Incredibile. La regione al fianco delle forze dell'ordine, certo. Ovviamente per impedire il flusso di migranti irregolari. Però, amici miei, è tutto quello che si può fare ai confini per impedire a signori estranei. Qualcuno entra a casa tua senza chiedere il permesso, Gottardo? Nessuno. Non volete sparare, d'accordo. Non volete il muro, non volete i confini. Cruciani, rileggi la frase. Rileggi l'ultima frase fondamentale. Dammi il foglio. Quando si tratta di sicurezza, voi dite: mettiamo gli impianti d'allarme. Certo. Questo qua è come un impianto d'allarme, praticamente. C'è una frase fondamentale che dice: l'amministrazione regionale è dalla parte delle forze dell'ordine. Sai che lo dicevano due governatori di regione, Galan e Formigoni, centinaia di volte. Porta una sfiga questa frase qui, pazzesca. Andrea da Padova. Sì? Dimmi, ciao. Andrea, dimmi. Ciao, un saluto a tutti. Non sento un cazzo, Emilio da Bergamo. Emilio? Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Allora, io volevo dire questo. La sinistra è la rovina dell'Italia. Perché? E spiego il perché. Dimmi. Secondo me. Sì. Innanzitutto è dal 2011 che noi italiani non votiamo più. chiaro? Adesso non vogliamo più. Abbiamo non votato delle amministrative, le regionali, un anno e mezzo fa abbiamo votato. Dalle europee, alle europee non ha votato lei. Da dove chiama? Da dove chiama? Da dove chiama? Da dove chiama? Da dove chiama? Scuse come sempre. Da dove che chiama questo? A quel punto magari discreditatemi con un giudice magari, che almeno siete più facilitati anche. Senti questo da Bergamo. Senti da Bergamo. A Bergamo avete appena votato, scusa. Vedi. A Bergamo, sì, a Bergamo avete appena votato e ha rivinto Giorgio Gori. Okay. Ha rivinto. Vabbè, mi fate parlare un attimo questo qua, Emilio. Sì, da Bergamo. Ma questo qua dice: non abbiamo votato. A Bergamo hanno votato meno di un anno fa e ha vinto Gori. Lui di parlava nuovo delle elezioni nazionali, okay, ma anche qui sbaglia. Non sto perché dicendo la città di Bergamo che vale nulla o eccetera, eccetera. Ok? Io sto dicendo il governo. Ok? Noi dal 2001. Il governo si vota ogni 5 anni, no? Vero? Che noi italiani, poveri italiani, abbiamo votato e fino adesso è stato in qualche modo, poi hanno trovato tutti gli escamotage con i giudici discreditando, Berlusconi discreditando. Vabbè, ma adesso questo è un discorso politico, che vuoi dire? In Italia si vota, in Italia si vota. I vari girotondo e adesso le sardine stanno facendo di tutto e naturalmente la di tutto che cosa? Ci sono le elezioni in Emilia Romagna adesso, non è che le hanno revocate le elezioni in Emilia Romagna, non è che le hanno annullate. No, le elezioni in Emilia Romagna ci sono, ma non sto dicendo quello. Ed è colpa della sinistra. Posso finire il ragionamento, Parenzo? Ma qual è il ragionamento? Non ho capito, qual è? Qual è? Allora, il ragionamento è questo, la faccio corta. Fino adesso è stato in Michele, ma hai rotto il cazzo, mi hai rotto il cazzo, Michele da Bologna, dai. Ciao a tutti. Niente, volevo dire riguardo le sardine, fare una critica costruttiva contro le sardine. Ma perché ce l'hanno tutti con le sardine? Non si riesce a capire. Fanno così paura. Quattro. A me stupisce soltanto il fatto, una cosa, il 24 dicembre scorso c'è stata una grande manifestazione contro l'Andrangheta a Vibo Valentia. E chi se ne frega allora? No, non chi se ne frega. Dove cazzo erano le sardine? Ma chi se ne frega? Massimo dalla provincia di Vercelli. Chi se ne fotte? Dove, a cosa hanno aderito? A cosa non hanno aderito? Ma chi cazzo se ne frega? E dove era costui soprattutto? Massimo dalla provincia di Vercelli, dai. Buonasera. Secondo me sono meglio qualche decina di migliaia di sardine anziché centinaia di migliaia di persone che vanno come ideale a urlare per il pallone negli stadi tutti i giorni e poi si accoltellano per delle maglie. Ma cosa c'entra? Quindi, che paragone è? Ma che paragone è? No, il paragone è che sei uno che vai tanto nel pallone. Quello che è un bel ideale, quello lì. Ti scagli tanto con chi è meno ha degli ideali meno fasulli. Ma tu sei completamente fuori di testa. Sì, poi, se ma Massimo, scusa un attimo. Qual è l'alternativa? Non è che l'alternativa sia andare negli stadi a scannarsi oppure andare in piazza con le sardine. Scagliati un po' con quelli lì che ti danno poi anche magari spazio nelle trasmissioni televisive. Lucido. Ma questo è un cretino totale, ma questo è un imbecille assoluto. Volevo dire una cosa a Parenzo, se possibile, il dottor Parenzo. Sono qua, caro amico. Lui ad esempio, giustamente, ce l'ha tanto con quei ladri che non bisogna sparare ai ladri. Poi dopo invece gli va bene se ti lanciano un missile su un generale a casa, più o meno a casa sua, che sta facendo anche terrorismo, ma a casa sua. Dico, qual è la differenza tra il generale che ha ricevuto il missile americano e saltato in aria e un ladro che viene ammazzato in momento, una casa? Un minimo di come dire, no? Facciamo un respiro intanto. Faccio come un respiro intanto, così proviamo a concentrarci un secondo. Fai un respiro. Massimo. Metta le mani, metta pollice e indice, unisca pollice e indice da mano sinistra, come direbbe Otelma, pollice e indice da mano destra. E con me faccia. Fai un respiro, Massimo. Hai fatto solo il respiro, le mani. Era un criminale. No, l'ho fatto perché sennò tagliate magari la cosa. Non tagliamo cose, niente, amico caro. Faccio un respiro. Sì, ha detto di fare un respiro. Rilassati. Cerchiamo di faccio un bel respiro con me. Provi. Vuoi respirare, Massimo? C'è la mia amica qua vicino che respira in un'altra maniera in questo momento, mi sta rilassando in un'altra maniera. Comunque, cioè, in che senso? Scusa, aspetta, questo è interessante, scusa. Ho capito, la tua amica che ti sta rilassando in che modo? Che modo? Vabbè, ma io, a me non piace parlare di quelle cose. Beh, dico solo che sono in compagnia e chi è questa gentile signora? Lei che mi ha detto telefona, digli quello, perché lei non sopporta il calcio. Hai visto che tutte queste trasmissioni un momento. Allora, Massimo, chi è? Mi passi un attimo questa signorina? No, non è una signorina, è una signora che tra l'altro deve andare poi via tra un'oretta perché poi arriva anche il marito a casa sua. Ma scusa, ti stai trombando una signora? No, lei fa tutto lei, io non trombo niente, io subisco. cioè ti sta facendo una pompa. Ma non questo c'è il marito, una roba del genere all'incirca. E il marito? Sì, adesso sto ridendo, ha smesso, porca miseria, ha smesso. Ma tutto fa. E il marito? No, no, è vero, il marito? Il marito? Il marito è ad Aosta. Il marito è a casa, è che sta chiamando la zanzara. Ad Aosta. Non bisogna mai andare ad Aosta. Ma no, ma non può saperlo, non può saperlo. Passami un attimo. Lavora negli elicotteri, diamo altri dettagli. Massimo, mi passi? Si chiama Adelina? Si chiama Adelina per caso? Mi passi questo cazzo di signora? No, ma prima fammi dare una risposta da Parenzo. Ma che ti frega della risposta, amico mio? Ma quale missile? Ma quale missile? Ma parliamo del missile che stava assorbendo la signora, più che altro. È quello di carne, perché sai. No, ma volevo dire, signora Adelina, qual è la differenza tra un generale che salta in aria là che cioè, ma scusi no. Massimo, lei finché si fa fare si fa praticare una fellazio, parla di politica internazionale con Parenzo. Ma sì, che perversione è incredibile questa qua. Sì, sì, in effetti non sono tanto in quadro, non anch'io. Si era capito. Però Massimo, a questo punto, per chiudere la storia, è fondamentale una cosa: la risposta Parenzo te la darà quando vuole, domani, dopodomani. Sì, no, ma tanto io mi sento sempre. Ottimo. Pensate una cosa, io non so più manco la televisione, sento solo la radio. Non legge neanche i libri, non legge niente neanche, certo. Ma no, scusami, Massimo, la mia stima nei tuoi confronti è aumentata enormemente. Prima è ripartito malissimo. Non mi dire così, se no poi dopo la mia amica qua poi si incazza. No, lo ci so, passi però, sta signora, per vedere che è vero. Me la puoi passare un attimo? Ma no, ma dai, non mi far fare sta roba, poi viene riconosciuto alla voce, perché almeno che dica ciao, perché sennò quell'altro se la riconosce poi va a finire mi tagliano ancora no, i coglioni. Ma 30 secondi, proprio 30 secondi, tanto non la riconosce, 30 secondi, un attimo. No, non posso. Un'altra volta che succede, però fammi sentire da lontano la presenza di questa signora. Che lanci un gemito, per esempio. Che dica qualcosa. Voi siete perversi voi, Dio buono, però. Beh, molto perverso. Perché vuoi parlare con No, non vuole. Non vuole. Allora, ricostruiamo la vicenda. È verissimo. Non c'è testimonianza. Massimo, però è chiaro che è vero, non è che uno se ne esce così. Massimo dalla provincia di Vercelli ha chiamato. Intanto. Sì, ma io comunque ho 66 anni, sono vecchiotto, però mi funziona ancora abbastanza. Se non sento la voce della signora, io non ci credo, sono legittimato a non credere. Sì, ma tu stai zitto. Sì, ma va bene così. Allora, Massimo dalla provincia di Vercelli ha chiamato una signora. Gli stava facendo evidentemente un pompino, giusto, ma, Massimo? Più o meno, lo stava sfrugugliando. Si è scoperto che questa signora in realtà è sposata, ha un marito che lavora negli elicotteri. Sì, ma d'altronde, scusate, è troppo rischio, ma è più bello così. Io mi sento più gratificato con una persona, diciamo così, accoppiata, perché se viene anche con me evidentemente ci avrò qualcosa in più, perché se fosse da sola No, ma ha ragione perfettamente Massimo dice, c'è più adrenalina ad andare con una che c'ha un marito non per una questione, diciamo, così particolare, solo per il fatto che praticamente c'è un confronto. Quindi dice, se scopo anche con me scusami, quanti anni ha la signora? La signora quanti anni ha? Signora 52. Che emetta un gemito, tanto non è riconoscibile. La schiaffeggi su una natica. Sentiamo il colpo della mano sulla natica. Non c'è nessuno. Un gemito. Sono qua. Dica, sono qua. Solamente questo. Non è riconoscibile con sono qua. Facciamo finta che non è vero, dai. No, tanto è vero, però facciamo. Effettivamente, ma quanta gente lavorerà sugli elicotteri a Aosta? Cioè, oggettivamente, solo da fare una ricerca. Sono persone. Ripeto, Massimo. Però oggettivamente non saranno centinaia, no? E questo è la ragione, Massimo. Centinaia. Ma lei c'è le Alpi, non è che lavora per quello. Diamo altri dettagli. Per le tronchi, che cazzo ne so io cosa fanno. Sì, però mi fai che emetta. Secondo me non è vero, fino a quando non sento. Tra una settimana, 5-6 giorni, chiamo poi. No, ma semplicemente sono qua. Ti organizzo qualcosa. Massimo, semplicemente le parole sono qua. Convincila, tanto voglio dire, col pisello che hai la convincerai in qualche modo, no? No, ma adesso si è mosciato e lei ha smesso. È andata in cucina a farsi. Chiamala, ti prego. Rincorri un attimo col telefonino. Chiamala. Io non vorrei leggere domani. Sono sul fisso. Chiamala, dai una vociata. Sono qua. Voglio sentire la frase sono qua. Non è vero. Senti, questi insistono, non puoi venire. Vieni qua, no? Dio fa, vieni qua. Non mi fare cristonare. Io la finirei qua. Scusa, ma quante volte vai dalla tua amante? No, ma io adesso, dire la verità, da quando sono in pensione io ho quattro radiocomandi in giro. Qui arrivano, vanno e vengono. Quattro radiocomandi? C'ho il cancello elettrico, allora praticamente qualcuno sa che sono solo lunedì e martedì, l'altro il mercoledì. Cioè c'è tutta un'organizzazione un po'. Insomma, non corro più tanto io, corrono loro ormai, mi sono fatto un po' più furbo che da giovane. Ma quanto ha di pensione lei? Quanto prende di pensione lei? Come? La pensione sua, quanto ammonta? 4.800. 4.800 euro. Ne ho due, cioè quella da libera professione, anche se era piccolina. Ma che lavoro faceva? Saranno cazzi suoi. La cosa più interessante è questa: quante ce n'hai di persone come questa 52enne? Quante amante hai? Quattro radiocomandi. Cos'è di quattro radiocomandi? Richiama radiocomandi. No, nel senso che qua avendo il cancello elettrico, perché io abito in una villetta col giardino, no? Cioè allora loro aprono il radiocomando, cioè loro. Vengono a non casa. È che si incontrano, vengono a casa. Vengono direttamente a casa con radiocomando, possono aprire direttamente. Dunque, sì, ci sono, se capisci, no? Cioè te, uno gli dice io ci sono solo lunedì e martedì, poi sono sempre via. Quindi quella arriva, se arriva arriva lunedì e martedì. In più il problema è che ho delle grosse spese, lavare le lenzuola, perché porca miseria, se non le lavi da una all'altra si sentono ancora il profumo dentro le lenzuola. Cioè le mie spese più grandi sono lavare le lenzuola. Oh, benissimo, almeno lavare le lenzuola. Ma sono tutte sposate, perché sennò va tutto a puttane qua, Ma sono già, tutte sposate queste? A proposito di puttane, se no da una all'altra hanno un olfatto ste cavolo di donne, una roba bestiale. Ma sono tutte sposate? No. Una adesso non dovrei dirlo per telefono, perché poi una sarebbe la nipote, una nipote di una mia ex collega. Una nipote di una tua ex collega. Sono tutte mature. Le altre mature. Ma tu, nipote, quanti anni? Ma lei è un maiale. Ma che cazzo sei? Un trapanatore praticamente. Cioè, no, ma io non ci credo a nulla. Ho fatto una quindicina d'anni di scuola guida, e nella scuola guida è un macello, un disastro. Allora sono tutte reminiscenze. Io non credo a nulla di quello ma che lei ha detto. Ma il Viagra lei lo usa nulla. Oppure a 62 anni va solo con metodi naturali? Insomma, un po' di doping. Allora, il mio dottore mi aveva dato, io non gli ho chiesto niente, mi aveva dato due o tre di queste pastigliette. Doveva prendere che quello era lo psichiatra. Ho aperto il bugiardino, ho letto in un certo punto. Pericolo, casi rarissimi, pericolo di morte improvviso, li ho ancora lì. Non ho mai preso niente, noi scherziamo. Se devo crepare, crepo di mio, non per la pastiglia. Il problema però dopo, due o tre giorni per riprendermi, quello sì, io ho quel problema lì. Non ho il problema di erezione o altre cose, il problema è della ripresa, è micidiale, cioè dopo, non so se comunque, è una ragazzi, posso dirvi ragazzi che è la pensione perfetta, questo tizio ha 66 anni, mettiamo che sia tutto vero, io ci credo perché la telefonata è nata su altre cose, 66 anni, questo ha dato quattro telecomandi a quattro amanti che ha, una più giovane e le altre tre un po' più mature, le invita, io ci credo, le fa però. Venire a casa sua, ragazzi, le fa venire, le fa venire, non lo sappiamo, le fa però, venire, diciamo. A giorni alterni o comunque sì, senza però che ci mette Giuseppe è un fake. Mi sono organizzato che lunedì e martedì c'è un radiocomando che funziona, ma se ci mette tre giorni venerdì, poi c'è quella del ma weekend. Se ci mette tre giorni come fa? Le scopa una volta ogni due settimane facendo rapidi calcoli? No. Tipo stasera non abbiamo fatto un cazzo da un punto di scopare, solo fatto un discorso lei. Un discorso. Io sono stato lì e adesso tra l'altro spero che prima di andare via finisca poi il lavoro, visto che insomma. Ciao. Il lavoro. Ciao, grazie. Il lavoro, sì, è un lavoro anche questo. È una faticaccia enorme, però finché ti tira. La Zanzara. Mi dite una cosa, ma Papa Renzo, ma gli sta a partire la brocca? Se spoglia pure Papa Renzo, mo. Madonna, ma a parte dico, fatti la ceretta, Papa Renzo. Mi pari l'uomo de Neanderthal, mi pari. E poi dico, con qua la panzetta... Mamma mia, mi pari un piccolo bambino con la panzetta da adulto. Ma come mi si raccomando, pare? Non famo ste cazzate, C'è ragione, se uno si spoglia, ragazzi, un minimo di decenza ci deve essere. Io ho visto delle cose prima nella pancia di Parezzo che ha fatto vedere per dimostrare che era dimagrito, che era agghiacciante. Non c'è nessuna pancia. Cioè, il corpo di chi dimagrisce, ma in realtà mantiene una piccola protuberanza là davanti. Flaccido. È osceno, meglio allora l'orgogliosa. Ho anch'io una l'orgogliosa pancia. Non mi dispiace, l'orgogliosa pancia di Gottardo. Nel mio caso c'è una protuberanza, se uno guarda bene. Una sola. Ora depilata, tra le altre cose. È una cosa agghiacciante. La depilazione. depilazione, la depilazione è detta anche epilazione. Mamma mia, con la del crema, signor Gottardo, con la crema. È una cosa. Fatta mia moglie. Non riesco a capire la scelta perché. Perché la scelta. Non posso svelarlo, devo svelarlo. Posso svelare solo la settimana prossima. D'accordo, la settimana prossima. Comunque, si è depilato all'inguine, praticamente si è depilato nella zona intorno al pisello. Mi serve per delle foto di scena. Le foto di scena. Non posso dire di più. Foto di scena. Anche devi fare le foto al cazzo, non posso dire di più. Non può dire di più. Deve fare delle foto, vabbè. Devo fare delle foto. Foto all'inguine è una cosa ghiacciante, scusa. Ah, ragazzi, comunque, la cosa che volevo chiedervi è in quale. Però è vero che sembra più lungo dopo che te la sei depilato. Ma sì, assolutamente questa. Che c'è? Brasiliano ancora? Vai. Ci sei direttamente dal BB Magico. Che è successo? Cos'è il BB Magico? Questa lo sai che il brasiliano condivide sempre in amicizia. Dillo, Giuseppe. Ciao Giuseppe. Sta fa uno. Con il sottofondo uno che gridava aiuto, se non ho sentito male, ma peraltro. Cos'è sto video? È il brasiliano che stava accartocciato su una, faceva vedere le chiappe. E ha detto condivide sempre, come no? Un esperto di intimità batterie. Come quello, come si fa a condividere? Come di batterie? Cosa vuol dire batterie? Batterie sarebbero le orge praticamente. Ah. Le orge, le ammucchiate. Quante cose si imparano ascoltando la zanzara? Non sono solo le bande criminali. Quando uno dice ho fatto una batteria, andiamo a fare una batteria, significa andiamo a fare un'orgia, andiamo a fare oppure andiamo a fare un'ammucchiata, un sesso di gruppo. Oppure alla radio scarica e deve cambiare. Allora, ragazzi. Degli imputati in un processo di quale città non comprendono l'italiano. Il giudice acconsente al traduttore. Primo caso nella nostra storia giudiziaria, e non è una fake news, potrebbe essere Vipiteno. Primo caso nella nostra storia giudiziaria di un interprete della lingua italiana per gli atti di un processo. C'è sempre una prima volta. Il giudice Francesca Preziosi del Tribunale di Macerata ha consentito di concedere agli imputati di una certa, come dire, provenienti da una certa città, sotto processo per spaccio, un interprete perché non comprendono l'italiano. Così come viene riportato da un giornale, l'avvocato è originario di eccetera, sarà il primo incaricato nella storia giudiziaria ad interpretare gli atti del processo. Pensate. Il tutto a titolo gratuito, ragazzi. Secondo voi, da quale città vengono questi imputati per spaccio in questo processo a Macerata? Vengono per caso da Bolzano? Beh, anche lì no, ci sono vengono spacciatori, da però. Palermo? No, vengono da una sola città. Sono imputati napoletani che non comprendono l'italiano. Il giudice acconsente al traduttore. E dai, su. Per non parlare di quello che è successo in questi giorni, che è un fatto tragico su cui non si può scherzare, alla metropolitana di Napoli. Mamma mia. Questo che c'è da questo e succede. Anche a un certo numero di motorini in contromano in tangenziale negli ultimi giorni. In contromano in tangenziale di notte. Vabbè, Andrea da Padova, dai, Andrea. Vale, Luciani. Dimmi. Mi è venuta voglia di chiamare. Saluto anche Albertone, ecco, che mi conosce come Capofabro. Capofabro, figurati. Uno che abita sulle montagne e una bellissima moglie, tra le altre. Dimmi. Niente, volevo parlare un po' delle sardine, perché quando sono uscito sto movimento, manco le sardine in Saò riesco più a mangiare perché mi bloccano lo stomaco. Proprio. Ma no, non c'è bisogno, fatti una risata. Di fronte al nulla cosmico, ma giustamente tanto nulla, dici tu. Ma ne parlate ogni giorno. Sì, ne parliamo perché purtroppo tanto vengono, nulla. Essendo invitati nei talk show, e noi riprendiamo. Siccome la catena è diversa, sì. Siccome vanno nelle piazze, riempiono le piazze, vengono invitati nelle trasmissioni televisive e non solo. Per il culo. Ma sono dei giovani con dei sogni. Sono dei giovani con i sogni. Tu hai sogni. Ma nelle piazze ci vanno perché in teoria sono mandati dal PD, perché se si presentano. Ma figurati, mandati da cosa? PD sia in grado di mandare la gente in piazza. Ma non è in grado di mandare neanche i volantini durante le elezioni il PD ormai. Cosa vuoi che mandi in piazza cosa? Se li mandassero il PD ci sarebbero le piazze vuote. In realtà voi invidiate la giovinezza. Ma chi di queste persone? Ormai attempato Cruciani. Ma figuriamoci. Invidia la giovinezza di questi qua. Ma figurati, invidia vorresti la giovinezza. Vorresti essere come loro. Se giovani, loro se hanno giovani un sogno, significa essere loro come. Loro hanno un sogno, a differenza tua, che non credi culo. Più in allora, nulla. Allora, se la giovinezza significa essere come Santuzzo, Santoro, San Minchia, certo. Meglio essere decrepiti. Eccolo, vedi, meglio vedi, essere ragioni decrepiti. Come filtri, ragioni come ciao, filtri. Ciao Andrea, ciao. Mi è venuta voglia di chiamare Ivano Marescotti, che vede il pericolo fascista. Guarda, fa bene. Il pericolo fascista se vince la Lega in Emilia Romagna. Il pericolo fascista. Pronto? Ivano? Sì? Sono Cruciani, come stai? Ciao Cruciani. Alla grande, alla grande. Grande Mare Scotti, grande Mare Scotti. Mi hanno detto che hai fatto un appello, Ivano. Un appello al voto, normale. Beh, un appello ad andare a votare, certo. Certo. Ma scusa, ma veramente tu pensi che ci sia un pericolo per la democrazia? Sì. Per la democrazia addirittura, cioè non è una normale... Per la democrazia, sì, sì. Cioè non è una normale competizione... È inutile fare questo senso di questa polemica. C'è la democrazia, c'è chi batte, chi lavora contro l'aspetto democratico e chi lo difende. Adesso siamo in una situazione in cui se dovesse vincere un politico, tra virgolette, come Salvini, sarebbe una cosa abbastanza pericolosa. Ma tu dal punto di vista umano che ne pensi di Salvini? Dal punto di vista proprio umano? Cioè... No, dal punto di vista umano è meglio, che, meglio non dirlo. Perché? Perché potrebbe essere denunciato. Addirittura, addirittura. Come dice qualcuno, se fosse in una scuola elementare sarebbe considerato un bullo. E lui purtroppo è un persona ignorante che non capisce una minchia. Fa semplicemente dei slogan, non sa, non sa. Non è che sia fascista, che lui... Beh, tu hai detto partito neofascista. Un altro dice che a lui gli conviene fare quello perché gli conviene, insomma, perché sa che andando a fare questi slogan sollecita prende la pasta, pancia degli italiani, e gli italiani che non sanno cosa significa possono seguirlo. Il fascismo poi l'abbiamo inventato noi in Italia, questo non è che come dice Primo Levi è successo e può succedere di nuovo. Cioè stai dicendo che il fascismo può tornare? Ma certo, è sempre presente. Ho capito, ma tornare. Salvini non è che può essere paragonato a un nuovo Duce, cioè non è che ha pulsione. Ma no, non ha neanche la cultura del Duce. Però è solo uno zicone. Però nella tua terra, c'è cioè l'Emilia Romagna, il candidato non è Salvini, il candidato è un'altra, una signora che si chiama la Borgonzoni. Ma sì, infatti non si fa vedere la Borgonzoni. Cioè tu dici che è una specie di pupazzo. Evidentemente si vergognano di farla vedere, lei non sa manco dove confina l'Emilia Romagna, vuole diventare la presidente della regione, è una cosa vergognosa, non sa, non ha neanche le capacità, le possibilità, le figure pitiche di qualche livello. Cioè non sono attendibili, cioè è un pupazzo secondo te, e basta. È un pupazzo secondo te, un manovraggio, cioè, no, è quello che è, perché è un pupazzo, più pupazzo di Salvini chi c'è. Però scusami Ivano, c'è un elemento, tu dici sono neofascisti, sono le battaglie civili di Mare Scotti, è un attore impegnato, civili. Neofascismo non significa che uno deve andare in giro col fez e il bastone eccetera. Il fascismo è una mentalità, un modo, è una prepotenza, è un razzismo, xenofobia, è quelli ce l'hanno tutti questa roba qui. Però sono scusami, le elezioni sono xenofobia, razzisti. Però scusami, le elezioni, c'è un sacco di gente che vota la Lega, c'è un sacco di gente che vota Fratelli d'Italia, un sacco di gente che vota la Forza Italia per questa coalizione qua. Non è che si può pensare che vincono questi e c'è un pericolo in Emilia Romagna di chissà che cosa. È un'elezione democratica per il presidente di una regione, vince uno. No, lo dicono tutti loro pure. Vinciamo in Emilia Romagna e battiamo questo governo, andiamo su noi tutti Italia. Vabbè, ma è legittimo, è la competizione democratica. È legittima, quindi fare una appello affinché loro non vincano. Ma sì, ma certo che è legittimo, allora. Assolutamente, però se uno dice se vincono quelli arriva, c'è il pericolo per non si sa per che cosa, per la nostra libertà, sì, c'è il pericolo per la nostra libertà. Io non sono per Bonaccini, per carità, non sono del PD, capisci? Però insomma, bisogna fermare i barbari. Il PD dicevo, io farei i conti dopo sul piano politico, ma con i fascisti i conti li abbiamo chiusi l'8 settembre del 43. Col fascismo non si discute proprio. E dunque che bisogna fare? In caso bisogna riprendere i fucili? Bisogna votare contro. E bisogna prendere i fucili nel caso in cui prendono il potere? Non bisogna votare contro, siamo in democrazia, perché vuoi farmi dire quello che pensi tu? No, ma quello che penso io, perché se uno c'è all'attacco Mare Scotti, all'attacco! Però scusami, no, però la cosa è curiosa, le sardine che ne pensi? Ma perché metti in croce Mare Scotti? Mare Scotti io non lo metto in croce. Le sardine impegnato. In mancanza di partiti nascono i 5 Stelle, nascono le sardine, ma solo che sono un po' deludenti pure queste, già cominciano già a dire che non siamo né di destra né di sinistra, pure loro, cioè non lo capisco bene io questa storia. Io non sto mettendo... Io sono di sinistra e lo rivendico, certo, e voglio essere di sinistra dichiarandomi ovviamente come gli però altri, voglio dire io non è che metto in croce Mare Scotti, figuriamoci, ognuno è libero di dire quello che vuole, di pensarla come vuole, però se uno dice che che c'è in pericolo la democrazia, la democrazia va difesa a tutti i costi, pure con i fucili, perché altrimenti di che parliamo? Ah, se la mettono in discussione, per forza. Appunto, allora si parla di fascismo, è ovvio. Allora, se tu dici che arrivano i partiti fascisti, xenofobi e razzisti al governo, uno come li affronta? Ci sono già stati, non è razzismo, xenofobia, quando hanno chiuso i porti, che significa questo? Vabbè, non è mancanza di democrazia. Ma quella no, è una scelta politica. Prevede che chi scappa dalle guerre ha il diritto di essere ospitato. E se Salvini diventa premier, tu allora che fai? Scappi dall'Italia, vai in montagna, che fai? Perché scappo dall'Italia? Questa è una concezione che avete voi di destra, per carità. Di destra, io non sono di destra. Battaglia politica affinché perdono le elezioni. No, e che te devo dire, amico mio? Ma se volete voi battere contro i fascisti, battete contro i fascisti. Un punto di vista. Ma uno vede i fantasmi, va bene. Ma credo. Quali fantasmi? Ma quali fantasmi? Esistono. Ma ti guardi in giro. Ho capito, ma Salvini... casi di fascismo, ma dico, i leghisti, li la Lega che cos'è adesso per te? La Lega, la Lega è un partito fascistoide. Ma fascistoide, amico mio, è fascistoide, uno deve essere messo fuori legge allora. No, ma se fuori legge, no, mica il Partito Nazionale Fascista. Il fascismo è presente comunque, il razzismo è uno razzista è comunque fascista, e se uno è fascista è razzista. Salvini è razzista secondo te? Salvini è un razzista, xenofobo e cialtrone. E cialtrone. Ciao Ivano, ti abbraccio, ciao. Ciao, ciao. Avanti tutta Mariscotti. Ma voi siete matti, ragazzi. Tu e Gottardo e Marescotti siete matti. No, ma Gottardo non la pensa così in realtà. Non la pensa così, anzi, pensa che questa cagnara che state facendo, dipingendo quelli che potrebbero vincere, non me ne frega un cazzo a me dei sondaggi, quelli che potrebbero vincere Emilia Romagna come dei fascisti, dei razzisti, dei xenofobi. Non è una cosa positiva. Beh, elettoralmente siete parlando. Pazzi, siete però, pazzi. Però pazzi. Demonizzare le sardine è una cosa sbagliata. Allora, io sono dalla parte delle sardine, sono contrario a quelli come Marescotti, che francamente mi ha deluso, perché dare del fascista, dire che se arriva Salvini allora bruciano le chiese, le biblioteche o qualcosa del genere, vuol dire rafforzare il convincimento di quelli che votano per Salvini. Ma questo è un altro parlare male dell'avversario, parlare male dell'avversario è sempre sbagliato, è sempre controproducente. La Zanzara. Sono io, Margot, per gli amici Lupin. Allora senti, io mi vado a preparare, sozio. Ci vediamo stasera alle 20:00 su Italia 1. Scassa. Ah! Promo 24. Appuntamento alla Pipeline and Gas Expo 2020, The Utility Construction Show, l'unica manifestazione fieristica in Europa interamente dedicata ai comparti del midstream e delle reti distributive di gas, oil and water. Attrezzature, strumentazioni e prodotti per la costruzione, il monitoraggio e la manutenzione delle pipelines e tecnologie dedicate alla gestione di gasdotti, oleodotti e acquedotti. Alla Pipeline and Gas Expo 2020 sono anche previsti convegni con relatori di fama internazionale dedicati al futuro del mercato del gas e del biogas e alle tecnologie del LNG anche nel comparto marittimo e dell'autotrazione. A Piacenza Expo dal 20 al 22 maggio 2020. Per info pgexpo.eu. La Zanzara. Ragazzi, sentivo il messaggio di quella signora, che quella gentile ascoltatrice che diciamo non ha da suo marito rapporti se non una volta l'anno. Ecco, io volevo dire a questa gentile signora che non si tratta di stanchezza, ma si tratta che a suo marito gli piace il cazzo. Ecco, detto proprio in parole crude, nude. Io, se alla mia compagna non gli passo l'uccello tre volte al giorno, chiamo i carabinieri. Ciao! Cioè, è presente il detto non c'è limite al peggio? Sta trasmissione è tutto il contrario, non c'è limite al meglio. Cazzo, lo scontro di ieri è stato pazzesco. Rocco contro Max Felicitas, mamma mia, grande Crucio, mamma mia, grande Crucio, verso le stelle, grande Crucio. C'è Ruffini che mi dice che Mr. Potato di Toy Story assomiglia clamorosamente a Gottardo. Sì, merita una riflessione. Beh, questo. È uguale. Identico, è vero. Bravo, non ho le orecchie così a sventola. Sì, è vero. Non però hai quel baffetto così, quella panza così. Beh, è un genio Ruffini, bisogna dire, sì. Mr. Potato di Toy Story assomiglia clamorosamente a Gottardo, sì. Vero. Vuoi sentire Capezzone? No, no, no, mi alzo. Capezzone contro la Morani. Capezzone contro la Morani. Ti prego. No. Questo. La verità è che voi ci avete solo in mente di tassare e regolamentare imprese, partite IVA, lavoratori del privato. E lo sa perché? Perché voi sapete che in gran parte non sono vostri elettori voi li volete massacrare. C'è un'analisi proprio magnifica quella di Capezzone, profonda. Voi realizzate e non ve ne rendete conto. Voi comunisti, perché sempre quello siete. Ha ragione. È comunista con la borsa di Vuitton. All'attacco Capezzone, comunista con le borse di Vuitton. Quanti luoghi comuni, idioti. È lui che scarpe porta, che vestiti porta lui. Guarda, è veramente una cialtronata. Sentirlo parlare è una cialtronata proprio. So sardine con la borsa tu di Vuitton. Tu stai buono Capezzone, ci penso io. Capezzone. Porro, una domanda. Non mi chieda se sono comunista io. Ma perché Capezzone non si è incazzato con Salvini quando hanno fatto il decreto fiscale? Perché mi diverto di più a parlare con te e a svergognare tutte le nostre contraddizioni. È giusto, perché non l'ha detto a Salvini? Perché è più divertente percularli. È più divertente perculare gli altri. Molto semplice, perché Capezzone è di destra, fine. Che gliene frega. Molto, anche gliene frega Capezzone. Ma no, non gliene frega niente. È stato tutto della sua vita. È passato da Pannella al sovranismo. Una cosa incredibile. Tu eri comunista, adesso vai a cena con i banchieri, ma che cazzo vuoi? Comunista io non sono mai stato, perché partito comunista. La Federazione Giovane Comunisti Italiani. Ma non sono mai stato. Circolo dei PDS. E vai a cena con i banchieri. È impossibile. Non sono per ragioni anagrafiche. C'era la quercia con la falce e martello. Caro il mio Parenzo, ti ricordiamo tutti, anagrafiche, ti ricordiamo, non sono mai tutti stato iscritto alla Federazione Giovanile Comunista Italiana. Fermi tutti. Stato iscritto alla sinistra giovanile, non c'era più la FGC quando c'ero allora, io. L'inizio del declino della sinistra a Padova, però. Non c'era. Non ci frega un cazzo, non ce ne può fregare di meno di quello che accade al Grande Fratello, veramente non ce ne può, ma proprio zero totale. Potrebbe esserci il nuovo portavoce del Presidente del Consiglio fra 15 anni. Potrebbe nascere un nuovo portavoce del Presidente del Consiglio, però... Però qualcuno mette in croce un ragazzo che io avevo anche dimenticato, si chiama Salvo Veneziano all'anagrafe, in realtà è Salvo del Grande Fratello, signor Salvo del Grande Fratello, perché ha detto queste frasi giudicate sessiste, giudicate violente nei confronti delle donne. È evidente che primo è tutto costruito, è fatto apposta per dare un po' di evidenza al Grande Fratello, quella è un'operazione normale che fanno tutti i reality, eccetera. Secondo, mettiamo che siano anche genuine queste cose qua, ma che cazzo vuol dire? Uno dice sempre delle frasi magari, cioè non è che vuole scannare veramente le donne questo qua, sentiamo. Io se fossi stato single, c'era quella piccolina lì, tutta trasparente, con sto culettino che... l'influenza. Ma quella si merita due schiaffi che gli devi spezzare la colonna vertebrale proprio. E poi il midollo cosa gli fai? Scopri, staccati la testa. Però la lasci la pelle sul letto. Una cosa. Ma dai. Tu hai notato che la ragazza... No, però... La lasci sul letto con solo la pelle così. Perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare. Però ascoltami. Scusate. Sì, ma lui oggi è lo scheletro, adesso è la pelle. Ma lì proprio da maciullarla, dai. Dai. Ma dai, non, ma chi? Non era, non aveva un vestito, aveva... La pelle. Aveva un costume. Ma io gli ho visto la budella. Io sì, quando l'ho visto... Ma tu sei stato attratto dal vestito. No, no, io sono stato attratto che gli ho visto l'intestino grasso attraverso il fuso. Allora, insomma, parlavano di personaggi che gravitano intorno al Grande Fratello VIP. Ma allora la questione ma ci è questa: sono sti animali? Ma questo è Salvo là, veneziano, quello che ha partecipato al primo Grande Fratello. Un personaggio aiolo, era detto, biondo all'epoca, sì, ma detto, come Mauro D'Amanto. Ma Mauro animali, D'Amanto sono napoletano. Ma non è importante chi è o chi non è, tu non lo sai, io ne so un po' di più, ma leggermente di più. Gottardo pure. Sì, dovrebbe essere siciliano. Il se punto non bisognerebbe fare un glossario, è troppo lungo qua. Allora, questo signore che ha partecipato al primo Grande Fratello si chiama Salvo Veneziano, scemo. È detto Salvo del Grande Fratello. Sì. E adesso l'hanno rimesso dentro per fare Cagnara. Se ne esce con queste frasi. Ha fatto Cagnara. Sì, ho capito, ma si può pensare. È una gara di Rutti, poi alla fine. Adesso è stato squalificato, non so che cosa, non me ne frega un cazzo. E tornerà ma ti credo cosa? Ma non delle frasi dette così, a parte fatte apposta e dette apposta, questo è quello che penso io. Secondo, anche se le ha dette seriamente, convintamente. Chi se ne frega, sono delle frasi dette tra quattro amici del cazzo, sì. Che ogni tanto quella, io non le dico per esempio nei quella testi, la massacrerei, quella gli darei un sacco del bollo. Nei testi, nei testi dei rapper, no? Nei resti dei trapper, dai, che appunto, ascolta tua figlia, sì, c'è di peggio. Ma certo, eppure nessuno Fibra, vuole bloccare quelle, c'è di peggio. Nessuno vuole bloccare quelle canzoni, no? Comunque a Forum, non so chi è più credibile tra le due cose, a Forum accade anche questo. Ci parlava Forum di MILF, di MILF. Sì, è tutto poco credibile, è tutto poco credibile, però senti. Amo tantissimo e mi sono resa conto di non avere mai provato un sentimento così forte per qualcuno, anche se non è ancora nato, portasse il seme di questa persona. Va bene. Signora, di questa persona che è terrificante. Signora, perché mi hai rovinato la vita, tu. Signora, mi hai rovinato la vita. Signora, si rivolga a me e si vada a me. No, grazie, tu ami le vecchie. Signora. Le vecchie. Innanzitutto non sono vecchie, ma si chiamano MILF, però va bene così, signor giudice. Beh, ma questo qua fosse vero, questo sarebbe da ma no, ma a Forum ci sono storie verosimili che vengono fatte da attori, questo certo. Si sa. Alcune sono vere, altre sono verosimili. E beh, capì quelle che sono vere, quelle roba. Senti, no, qua. Vabbè, ma no, sono casi, ma è dichiarato, quindi. Sì, ma senti. Io sapevo durante la nostra adolescenza che lui aveva un'attinenza, una voglia, una passione, come la chiama lui, signor giudice, un'attrazione verso le vecchie. Le non persone sono vecchie innanzitutto. Mature definirle, fare un favore, delle donne decrepite. Io sono andata un giorno, volevo fare la cioccolata calda per ravvivare al peperoncino, per ravvivare il nostro matrimonio. Per, dopo vent'anni però, signor giudice, dopo vent'anni ci ha pensato a fare un qualcosa di più per il nostro rapporto. Ho detto sarà monotono, noioso e il nostro rapporto. Pensi che sia veramente una cosa sexy spalmarsi la cioccolata calda addosso, veramente? Cioè, ma certo, la cioccolata è afrodisiaca, il peperoncino. Sono andata su internet, ho scritto hot... Signor giudice, mi è uscito di tutto. Delle cose, delle carte, la cronologia. Era nella cronologia, non l'aveva neanche cancellato. Non aveva neanche avuto la decenza. Lei è entrata nel computer di suo marito. Esattamente. Ho scritto hot, volevo fare l'hot chocolate, è uscito di tutto. Io non mi aspettavo mai più video, effusioni, hot milf 2000, hot milf 1900, chiocciolina, fragolina. Io sono rimasta sconvolta. Perché è un reato guardare i siti hard adesso, fammi capire. Non è un reato, ma se poi tu li metti in pratica queste cose, tu sei perverso, no, sei malato. No. Recita meglio questi qua di Forum oppure Salvo? Allora, io vorrei ricordare questione posta dalla Corte. Scusate. Io vorrei ricordare che Forum è talmente credibile come programma che c'aveva Bracco Neri come cancelliere. Giuseppe provincia però, di Salerno. Però il giudice aveva la voce di Barisoni. Giuseppe provincia di Salerno. No, questo... Pronto? Dimmi Giuseppe. Ciao Cruciani. Volevo fare una riflessione in merito ai meridionali al nord. Allora. Il signore del Gottardo che è in trasmissione. Buonasera. Più volte. Buonasera. Allora? Più volte ha tacciato. Io non sono siciliano, sono un napoletano trapiantato a Salerno. Allora non vuoi essere paragonato agli extracomunitari? Da quale città? Assolutissimamente no. Hai per ragione. Anni, e hai anche ragione. Per 38 anni ho vestito una divisa da meridionale. Ho girato tutto il nord Italia. Ho servito un paese che pensavo che fosse un paese unico, non come lo vuole distinguere il signor Gottardo. No, perché sai perché? Perché a me dispiace che i napoletani e i siciliani facciano i ragionamenti prima, che facevano quelle carogne dei veneti vent'anni fa. Voi siete meglio dei veneti. Così sì. Lasciava il posto di lavoro a un certo genovese. Lo stavo prendendo per il culo. Lei è napoletano, non capisce neanche l'ironia. Fermo là, si rende conto là. Faceva il carabiniere, ironia, questo qua. Faceva il carabiniere. Ironia. lei, chiaramente, perché no? Perché bisogna... carabinieri. No, fermi, fermi, fermi, fermi tutti e due, fermi. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Avete appena sentito un'esclamazione di stupore di alcuni sherpa peruviani di fronte a una Smart elettrica. Psst, e basta ridere. In effetti, che ci faceva sulla cima di una montagna? La cosa più bella da fare con una Smart elettrica è guidarla in città. Nuova Smart Q42, All Electric Now, 100% elettrica, 100% per la città. Guidala subito con My Mobility Pass, il noleggio Mercedes-Benz tutto incluso, con zero anticipo e wallbox. Datti una scossa su smart.com. Smart. Imprenditore, lavori oggi e incassi dopo tre mesi. Non fare da banca ai tuoi clienti. La soluzione c'è, il factoring digitale di Credimi. Vai su credimi.com o chiama l'800-195-195. Messaggio promozionale, fogli informativi su credimi.com. Tuta? C'è. Guanti? Anche. Paraorecchie? Due paia. Ok, andiamo pure al lavoro. Un vero professionista non smette mai di esserlo, nemmeno quando la temperatura scende a zero. Se scegli un veicolo Fiat Professional a gennaio, anche l'anticipo va a zero. Acquistalo ora e inizia a pagarlo ad aprile. Canone da 139 euro al mese, TAN 380, tasso leasing 388. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 gennaio. Info su fiatprofessional.it. Dal 17 al 22 gennaio, appuntamento con Vicenza Oro, vetrina delle eccellenze italiane e internazionali del comparto orafo e gioielliero organizzata da Italian Exhibition Group, e con VO Vintage, in mostra per la prima volta il vintage di altissima gamma di orologi e gioielli, con la possibilità per collezionisti e appassionati di vendere o acquistare pezzi unici e rari. Radio 24 sarà presente a Vicenza Oro con dirette e appuntamenti speciali. Tutte le info su radio24.it. La Zanzara. Se ne devono andare. Loro non credono nelle nostre tradizioni. Non credono in Padre Pio. Non mangiano la pasta col pomodoro. Ragazzi, tiriamo fuori i rosari, forza! Oh, ciao ragazzi, mi è capitata una cosa 10 minuti fa. Avete presente Facebook quando ti dice amici di amici, potresti conoscere questo, quell'altro, che cazzi vari? Vabbè, io mi è uscito uno e ho detto, no, diamo l'amicizia a questo, tanto vedrai, poi vedremo chi è. Insomma ragazzi, questo dopo 2 minuti dalla mia amicizia comincia a mandare già messaggi, sei proprio bel ragazzo, sei carino, sei molto bello. Sinceramente io ho mandato subito un vocale, perché poi sono napoletano, non vengo dalla montagna. Ho detto, amico mio, ma tu sei gay? E lui, non perdere tempo, perché io mi piacciono le donne e poi sono sposato con 3 figli. Non ho niente contro di te, per carità, però se tu intendi usare questa amicizia per cagarmi il cazzo di 2 minuti e farmi i complimenti, chiudiamo la stessa adesso, perché perdi solo il tempo. E questo ho cominciato a rispondere, tutto innamorato, no, ma tu sei bellissimo, cammina altro buono, nemmeno mia madre me l'ha mai detto. Io posso essere un tipo, ma certamente non è che sono bellissimo, me ne riesco ad accorgere. Quindi questo voleva fare subito. Ma è stato molto insistente, ragazzi, lo sapete? Cioè, io ho dovuto cancellare l'amicizia, l'ho dovuto cancellare, perché allora? Ti ho detto che non sono gay, va bene, rimaniamo anche amici su Facebook, possiamo condividere qualcosa, immagini, che ne so, pensieri, però non mi cagare il cazzo che cominci a fare l'innamorato invasato. E questo ha cominciato a fare l'innamorato cagacazzo, ragazzi, cancellare. Allora? Quindi immagino, io sono apertissimo di mentalità, ma ci mancherebbe. Però immagino a volte che vuol dire quando uno magari non sopporta sto fatto e questi non se ne fregano e vanno dritti per la propria strada. Ragazzi, ragazzi gay e omosessuali, non cagate il cazzo a chi non è gay, perché talvolta dà molto fastidio, ma molto veramente, No, scusa, io voglio dire a questo signore che gli stalker su Facebook e sulle altre, cioè, non è che sono omosessuali, cioè, esistono stalker di qualsiasi tipo, ma di che parliamo? Certo. Secondo me a questo in fondo è piaciuto. Cioè, tu dici che cos'è questa cosa? Un applauso? È la scopata di qualcuno. Un applauso di Però posso dirvi un'altra cosa? Allora, si parla in questi giorni di cose un po' dottrinali sulla questione del celibato dei preti, no? Allora, io sono a favore, naturalmente, sono a favore del fatto che i preti si possano sposare, però pensandoci bene, ma non sarebbe meglio rompere il tabù del rapporto sessuale del prete? Cioè, alla fine i preti possono scopare, in realtà non dovrebbero, secondo... Non possono. No, non possono. Secondo la dottrina non possono sposare. Però non, è, non sta scritto da nessuna parte, lo sai, che solo è il celibato la questione. Però non sta scritto da nessuna parte che non possono scopare, in realtà. Tra l'altro poi si desume dalle scritture che non possono scopare. Sì, tra l'altro si è desunto circa l'ottavo, nono secolo della vita della Chiesa cattolica, perché nei primi secoli è certo che i sacerdoti si sposavano e trombavano e non avevano nessun problema. Anche dopo trombavano. Ed è stato il momento di massima espansione del cristianesimo, però, se però, ci pensiamo. Allora ragazzi, io mi chiedo scusa se questo tema non mi appassiona, appartenendo a un, come dire, sì, un'altra però hanno azienda. Sempre trombato, hanno sempre trombato. Allora perché fissarsi sul matrimonio? La cosa più straordinaria sarebbe se il Papa, a me non me ne frega nulla, nemmeno a me, però adesso si affacciasse un giorno e dicesse: volete trombare? Cari preti, se avete voglia, c'è il caso adesso di un prete vicino Papa, Don Marino Ruggero, accusato di avere fatto qualche cosa, forse con le sue parrocchiane, e per questo forse cacciato dalla sua vescovo. È passato dalle pecorelle alla pecorina. Questo. Però ragazzi, sarebbe bello che Papa Francesco si affacciasse un giorno là a Piazza San Pio e dicesse: cari preti, avete voglia di scopare? Certo. Fatelo. Bellissimo. Fatelo. Bellissimo. Fatelo. Bellissimo. Scopate. Sarebbe rivoluzionario. Scopate. Non sarebbe straordinario, Francesco. Scusi, Francesco. Non sarebbe straordinario. Lei ma che dai, dice? Non sarebbe bellissimo. Sovvertire il Vaticano. Appunto, dico. Ma l'abbiamo già fatto. La fiction su Sky. Dai, The Young Pope. Dai, arrivi dopo. Dai. Ho capito, però. Non sarebbe straordinario fare. Non me la negare. L'abbiamo mandato su Sky. Ma che ci, ma lei non, succede, scusa, ma lei non stava mai a Sky? Naturalmente. Ho proposto alla Rai inizialmente, ma mi hanno detto no. No, ma il Vaticano ha detto Renzi, il Vaticano, naturalmente. Renzi e Vaticano. No. Vabbè, è già tutto fatto, dai. Siete ancora lì con Don Matteo, dai. Appunto, dico. Siete appunto. Ridicoli, siete ridicoli. Appunto, dico. E adesso stai distruggendo pure la radio. Ti hanno messo qui a distruggere pure la radio, dai. Ma che c'è? Non c'è più realtà. Qui non c'è più la realtà. Gente, non c'è più odio, naturalmente, è tutto ormai edulcorato, naturalmente, è tutto tranquillo, non c'è odio, dai. A proposito, c'è una signora, non so se ve la ricorda, che si chiama Pamela Pam Scuppa, una Pamela? Fruttariana, Pamela detta Pam Scuppa, Pamela Scuppa, una fruttariana che beveva la sua urina, urina una volta, te la ricordi? Sì, ma questa qua matti. Ha completamente rinnegato il veganesimo dicendo che fa male e dopo 28 anni è tornata a mangiare. Non la conosce, signor Gottardi, no. Io la chiamerei? Pronto? Pamela Scuppa? Sì, chi è? Sono Cruciani, la voce la riconosci, un tuo vecchio nemico. Sei il Puzzone. Ma Puzzone sarai te, sarai. Ma quale no, Puzzone? Sei il Puzzone. Ma quale Puzzone? Ho visto che c'è stato un rinsavimento, che da vegetariana, ex bevitrice di piscio e non solo. Amaroli, sì, più cortese. Amaroli. E Amaroli era, diciamo, il procedimento. L'urina, di bere l'urina. Ho capito, ma è una cosa di 3 anni fa, parliamo di adesso. Ho capito, sei tornata a mangiare prodotti animali, soprattutto pesce, da quello che, ma non solo, pesce, anche carne bianca. La grande svolta. La grande svolta, bravo, sì, grande. È come allora, il Partito Comunista, che a un certo punto. Se fossi stato qui ti davo proprio un 5, cavoli. Beh, con le tette che ha lei, io le 5 gliel'avrei dato su un capezzo, lo sa, signora. Vabbè, adesso shish buono. Vabbè, insomma, lei si fa le foto con le tette de fora, praticamente fuori, non è che devo guardare il cervello. Andiamo al sodo. Allora, Pam Scuppa, conosciuta come fruttariana, vegana, ripeto, per un periodo ha fatto anche la bevitrice di urina. Parenzo è molto curioso di questa cosa qua, vero? Vero, Davide? Sì. No, a me colpisce molto questa idea, questa cosa che lei si facesse gli drink con l'urina. Vabbè, adesso drink, me la bevevo, adesso non è che... Ma come mai hai smesso? Con Costantino della Gardesca, sì, vabbè, un cincin c'era scappato quella volta. Ecco, ma come mai a un certo punto hai smesso di bere urina? Partiamo da qua, poi andiamo sulle... Come mai hai iniziato soprattutto, sì, più che... Come mai hai smesso? Uno rinsavisce, ragazzi, che devo dire, adesso come adesso non lo rifarei, però esperienze l'ho fatto. Quando uno sta in un percorso particolare, un po' esaltato, diciamo, poco radicato, new age. poco radicato nel pianeta Terra come sono adesso, purtroppo la testa è in ma anche valvola. Lì faceva parte del pacchetto. Possiamo dire che gli scorreggia un po' il cervello, ecco. Ah, ti scorreggiava il cervello, ecco. Faceva parte del pacchetto. Proteine animali, che la ciccia è importante. Può scorreggiare anche con le proteine animali il cervello, in ogni caso, non è una questione solo di alimentazione. Però guarda, dammi retta, perché io in quell'ambiente ci sono state, devo dire che gli scorreggi un po' di più con il cervello, un po' di più. Cioè, tu stai dicendo praticamente che nell'ambiente vegano, vegetariano, soprattutto ambiente di vegani, praticamente. No, soprattutto di vegani, crudisti, fruttariani, mettiamo i punti. Perché tu eri fruttariana per un certo periodo. Cioè, per quanto tempo hai mangiato solo frutta? Per più di 3 anni. E adesso mi si è sgonfiata la pancia, comincia a stare un po' meglio. Cioè, fisicamente questa essere stata per, che ne so, quanti anni? 20 anni? Più di 20 anni? 28 no, anni? No, allora, 28 più di 28 anni da quando avevo cominciato da vegetariana. Ero una ragazzina, non c'avevo nemmeno 17 anni. Più di 28 anni vegetariana, poi vegana, praticamente hai ricominciato a mangiare la carne da pochissimo. Ma questo periodo è stato letale? Ieri sera mi sono fatta la prima cascia di pollo. Mamma mia, stupendo. Grande notizia, grande notizia. Dopo 20 anni. Più di 28 anni. Sì, senti, ma fisicamente eri ridotta male? Cioè, sei tornata, diciamo, alla normalità? I seni si rassodano, per esempio, con la fame. Scusa, ma io posso parlare col puzzone che mi sembra meno porco? Allora, no, io sono un gran porco, però adesso. Ma perché ho visto le tette della Martani? Sono un po' sgonfie. Sembri meno porco, capito? Allora, scusami. Allora, Pam, scusa un attimo. Allora, in 30 anni, che effetti ha avuto questa il veganesimo, il vegetarianesimo sul tuo fisico? Non belli, quando prolunghi hai carenze, dopo anche fisicamente sì. Cioè, ti sei massacrata praticamente in 30 anni di veganesimo. Cioè, ma no, aspetta, ma anche il vegetarismo, a mio avviso, non è che sia molto consigliabile. Secondo me le proteine animali sono essenziali. Oh, grande messaggio. I vegani tornino. Ma che va, magnate la ciccia, che pure è buona. Magnate la ciccia, questo è il grande messaggio. Tofu, adesso non è per dire. Ma sono una setta i vegani, secondo te? Secondo me è una pseudo setta tale, non so come chiamarla, perché non è che c'è tipo testimoni di Pip, hai capito di cosa? Ho capito. Di quello. Però diciamo che a livello globale c'è una bella organizzazione dietro. Cioè, stiamo parlando anche il guadagno, raga. Questi sono bottitini integratori. La Pam Scuppa è il Tommaso Buscetta dei vegani, praticamente. Non so, mi dispiace, ma non so chi è Tommaso, però Buscetta, il grande pentito della mafia. Lei è il grande pentito dei vegani, poi alla fine. Senta, ma chiamiamo pentito, in salita, mi piace vedere. Io ho una grande curiosità, signora Scuppa. Aiuto. Io ho visto, ho scorso la timeline del suo Facebook, ma lei, oltre a ingoiare cibo, cosa cazzo fa durante tutto il giorno? Lei ha un lavoro, a parte scurreggia il cervello. Entrare nella mia quotidianità. Certo, sì, perché vorrei capire perché Cruciani frequenta radiofonicamente una persona come lei, che evidentemente dal punto di vista social non fa un cazzo dalla mattina alla sera. Lei, oltre a mangiare la coscia di pollo nelle altre 24 ore, cosa ha combinato? Ma se magari un po' dei cavoli tuoi te li fai, no, forse non è meglio. Capito, però, io sono bene. Una mamma, c'ho da fare a casa. Okay, no, ho delle figlie. Adesso delle figlie non parlo, vabbè, l'ho nominata perché sono mamma. Bene. Però stanno benissimo, crescono bene, anche loro stanno cambiando alimentazione. Quindi stanno perché erano vegane? Erano vegane, ma adesso stanno cambiando. Non mamma è che stavano male come me, perché io, ragazzi, ho 30 anni senza ciccia bussata. Ma sei partita dal pesce? Dal pesce, esatto, dal sgombro, che mi piace un casino. Prima il pesce, poi ieri per la prima volta il pollo. Tu ti rendi conto cosa significa dopo 30 anni, mangiare per la prima volta il pesce e poi il pollo? Ma anche i formaggi forse, però, perché essendo vegana. Ho cominciato con le uova, tipo un mese e mezzo fa circa, se non ricordo preciso. I formaggi poi anche, però. Di capra e la ricotta di capra. Allora, il mondo intero deve diventare vegano. Vedi la ragazzina svedese. Appunto, dico, vedi la ragazzina. Vedi la ragazzina svedese con le trecce, perché c'era anche. Come no? Io la chiamo così perché non la nomino. Che ti sta su coglioni da Thunberg, pure che poverina c'ha bisogno, perché si vede dalla faccia, da quanto è invasata. Ha bisogno di che, dici? C'ha bisogno della ciccia, della ciccia, dici? Poi le pesce, che poi le svedese lassù cosa c'è? Comunque, la grande novità è questa, che una delle fruttariane, vegetariane, quelle che sembravano più convinte, fruttariana, eccetera, che beveva pure la sua urina, si è rinsavita. Dopo 30 anni di scorreggia il cervello. Bene, non mi scorreggia più, no? il cervello non scorreggia più. Appello ai vegani qual è? Così. Appello ai vegani qual è? Cominciate a mangiare, se no state male. Appello ai vegani, ragazzi, fate i bravi. Cioè, la ciccia, a parte che è buona, la mangiate biologica, la boccottate dagli allevamenti intensivi, ma non rompete il cazzo. Dai nativi d'America, cioè quelli rispettano la natura, l'hanno sempre rispettata. Cioè, l'essere umano deve mangiare grassi e proteine animali. Amen. Ciao, ciao Pam, ciao. Ciao. Un mondo sta finendo. Si stanno rinsavendo tutti. Il veganesimo sta per terminare, ragazzi. Michele da Padova, abbiamo quasi vinto. Michele da Padova, aspetta. Chiudere. Dimmi. Pronto, mi senti? Dimmi, Michele, dimmi. Allora, niente, io volevo raccontarti questa mia esperienza che ho avuto dal momento che ho capito. Sì, la racconti dopo la pubblicità. Aspetta, Michele, che è successo? No. È talmente interessante che la racconti alle 20:50. Aspetta, che è successo, Michele? Allora, no, la sarò breve anche perché mi sono anche un po' truccato tutta quanta questa pubblicità. Dimmi, Michele, dai. Dimmi. Allora, poco tempo fa, sarà stata una settimana fa, ero lì su Tinder, insomma, volevo farmi una scopata. Sì. Ho 20 anni, sono piacente. Sì, allora? Allora trovo questa ragazza cubana. Sì. La incontro. Che ha fatto? T'ha rapinato? Che ha fatto? No, era buona, era tranquilla. Aveva la sorpresa? No, non era proprio bellissimissima, ma comunque era molto. Qual è stato il trauma? Il trauma qual è stato? Tolta la mutanda? Che vabbè, insomma, per farla breve, eravamo lì sul letto per fare, insomma, per scopare. E lei mi dice: tira fuori la cintura. Beh, ragazzi, ottimo, niente di strano. Voleva qualche colpetto di cintura. Niente italiani di così. Niente qualche colpetto. Quella sembrava la passione di Cristo. Cioè, lei insisteva, lei. Cioè, voleva essere picchiata con la. Che ambiente. Ferocemente. Sì. Allora, Michele, però, tutto quello che è successo per davvero con la cubana che hanno conosciuto su Tinder, le scudisciate, le cintate che hai dato, ovviamente con l'accordo di questa signora, ce lo racconterai domani perché è il momento di. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sono pronte per essere munte.